Ma mi scrivo. Andrea potrebbe fare un gioco di combattimento, detto, vediamo se vinci con la matematica, indovina la matematica. Hai perso male. Ha vinto? Sì, ha vinto, però ho preso la femminuccia, non mi piace niente. Ma che gioco è? Non ho capito. Oggi gli ho questo tema. No, era un test, era tipo un test di Turing quel gioco, perché ci siete lui e cioè tu e il... Ma hai fatto a perdere a un test di Turing? Cioè, è tipo il... Ops! Ah, sai, non ho capito. No, praticamente c'è le caste del personaggio che fanno le combo di attacchi. Ma stai registrando? Allora cominciamo invece che dire cazzate. No, vabbè. Vabbè, inizia. No, attenzione che si rompe. Cioè, è abbastanza delicato. Sì, infatti, devo solo una cosa. Non toccarlo più. Basta, raga, per favore. Ok. Dopo registriamo i rumori sul calcolatore. Cominciamo la seconda sessione di The New Order, con uno in meno, che adesso arriva. Chi? Ma non conosce la faccia? il titolo è, per adesso, Rogue 2. Ecco, già comincio a spoilerare. Ah, che dolore! Il motivo si sarà, diciamo, verificato bene. La sessione è cominciata esattamente dove era finita quella di prima. Se qualcuno vuole riassumere... Andrea. No. No. Ma fai vedere, esatto, ma il simbolo c'è anche nella sigla. L'ho già vista la sigla, sì. Ok. Però quello è più figo, è contrastante, cioè il contrasto bianco no. Nessuno vuole... No, Andrea lo vedo carico, me l'ha ripetuto anche prima, me l'ha detto lo provo adesso, così dopo... No. Senti, l'avrò benissimo tu, no, Andrea, sappio. È vero, dico. Non parlo di sensazione. Okay. Allora, abbiamo iniziato la missione... Sì, ma pensavo facesse con aereo, perché magari mi dà un po' più di personalità. Comunque, abbiamo iniziato la prima missione... in questo settore dell'esercito dove sopravvivevano su tre, vabbè. Ah, ora mi ricordo. E vabbè, Andrea e Salla sono, diciamo, i leader del gruppo che ricevono istruzioni, soprattutto Andrea, e noi invece dobbiamo ascoltare loro, diciamo. Come soprattutto Andrea? Ascoltare non ti parlano. Ascoltare, esatto. quindi abbiamo iniziato questa missione sparando sul pianeta col mare dove sono i cloni, così si chiama. Camino. E niente, vabbè, Camino, alla fine abbiamo ricevuto le istruzioni via e siamo andati in un tipo una culla di cloni che andava distrutta. Abbiamo incontrato qualcuno che sembrava Boba Fett, ma alla fine il colpo di scena era che era proprio Boba Fett. Sembra Boba Fett. Riavvia. E niente, vabbè, sì, quindi abbiamo trovato una carica a tempo. Rovistando in un hangar, abbiamo innescato l'esplosione perché abbiamo due compiti. Uno era distruggere gli ultimi baccelli, diciamo, questi qua, e l'altro era recuperare il DNA i boccelli di questo, che però nell'operazione è andato perduto. Sì. Cioè perduto, caduto per terra. Però l'abbiamo provato a raccogliere. Provato a raccoglierlo, però poi andrò ad analizzare a cose fatte, a quanto pare non era funzionato. Non si può fare. Suggerno. Qua era RNA fotocopia. Si è girato Sara, tipo. Stavo per dire tutte parole così. È morto dentro. RNA. Vabbè, sì. E niente, siamo scappati, abbiamo fatto... No, non credo. Solo un cammino. E poi abbiamo visto lui che usava dei poteri strani. Che porco. Aspetta, sì, in realtà siamo fermi che Boba e cioè il cacciatore d'Italia andato via. Allora, il cacciatore d'Italia è andato via. Una chiamata arriva sulla vostra nave diretta a Salla. Allora. E lo vedete far lottare. Non so se voglio dire, cioè, ti metti in disparte. Se... Sì, mi metto in disparte perché li odio tutti. Tranne anche. Ok. A questo punto siamo quindi su una nave della Repubblica. Allora, la Repubblica. vi state dirigendo verso la base, mi sembra di aver capito. Non fate cose strane. Andiamo verso la base. Che bocca grande che hai. È per... Quello è un verso? No, c'è una cosa. Sì, l'ho scritto un po' male, però. Pronto? Questo è chiaro. Tipo la Ticci. No, te l'ho già detto la chiamata. No. Cioè, no, sì, me l'hai detto, no. Verti, con la Ticci, no, no, tra l'altro, finale. No, che ora termina. Ora me la ricordo. Così proprio. Vabbè, se la vuoi dire a loro, la dico, cioè, la dico. Ora me la riascolto e poi... Pronto? Che c'è scritto? Cos'era quello? Base. La base. Va bene, base. Dopodiché? Anzi, perché dopodiché niente. Che vuole scrivere? Oh. Come fai a scrivere così in corsivo? Volete che questa nave... scrivi di merda. Buono il cioccolì. Sono déjà vu. Vuole quello di signore. Loro che fanno ste cose. Poi è un po' ottimo la TC. Stasera è andato moscia. Mi sento carichi. Non io so sono troppo carichi. Aspetta, fa succedere qualcosa che scoppia subito. Allora, esatto. Si legge, cioè vedi, abbiamo questa base. Avete deciso. Ah, ok, ok. Ora pronto, sì. D'accordo, va bene. Abbiamo qualcosa per la prima... missione. Va bene. Missione a battaglia, su. Dico niente. Regà. Arriviamo. Stavo provando a leggere i miei appunti. Di tre Storm Trooper. No, ho ricevuto una chiamata da il tizio che si chiama Boba Fett, ma in realtà non è Boba Fett. E mi ha detto che... Aspetta, ma è chi sono? Non mi ricordo. Mi ha detto che ci deve un favore. Se noi non facciamo menzione delle sue cazzate che ha fatto nel pianeta, tipo che voleva distruggere il DNA. Oh mio Dio, il mio DNA, vi ricordate? Era così, no? Sì. No, aspetta, ma noi non abbiamo già fatto rapporto, non mi ricordo. No, noi abbiamo fatto rapporto. Non abbiamo detto al rapporto che lui ha fatto lo stronzo. Quindi non l'abbiamo detto. Poi hai detto semplicemente missione compiuta, la bomba esplode e stai andando verso la base, da quello che ho capito. Okay. Io direi screw Boba Fett. Se non menzioniamo che succede? Non so quasi mai in diretta. Se non menzioniamo lui che succede? Intanto che lo seguiamo per le palle, già non è male. E poi probabilmente in futuro se gli chiediamo un favore oppure lui ci farà un favore oppure non lo so, non è ancora chiaro. Cosa tipo è obiettivo così. Secondario. Esatto, è una missione, è una quest secondaria. L'ho visto. E quell'altra cosa di fianco cos'è? Buona cosa. Ma lui ha tagliato il panettone. C'è Pandoro, sì. Ma quello è Pandoro e quello di fianco, eh? Panettone al cioccolato. Solo per te l'ho tagliato, guarda, ho detto, guarda, taglia sto pandoro che... No. quindi siete sulla nave, dicevamo. Sì, sulla nave stai andando alla base, giusto? Sì. Ti d'accordo? Tu sei d'accordo. Cristiano non è qui, quindi ce la fa. Un attimo che... Il capitano ha una visita diabetica. Aspetta però, Cristiano è il pilota. Sì, è il comandante che si fa uno shot di insulina e... Perciò è il pilota, posso pilotare? Cristiano vedi che un attimo sta lì secugnato, non risponde, esatto, Cristiano ti fa il suo Cristiano fa il suo riposino di 10 secondi per ripigliarsi perché è stanco. Esatto, Cristiano ha le sue energie sono state diciamo depletate, cioè sono state assorbite tutte qua dal suo stranissimo depletate no terra depletate. Vabbè, Cristiano è morto, vai quindi. Vai. Io vai. Il robottino, sono un ingegnere. Il robottino che ha aiutato prima Cristiano. Io ho avuto di mento. Il robottino, tipo, come si chiama quello? Quello di quella scuola. Il medico. Il medico. Che poi faccio tanto questo modo. Tu che aiuta. Quello che sembra un esterminatore. No, ho capito quella, però non mi ricordo mai come. E ti dà a vedere che Cristiano sta un attimo, cioè si vuole un attimo assopire e quindi ti dà la comanda. Cioè, la comanda. Va bene. Soldi comandi. E quindi dove andiamo? Interpreta la comanda. Allora, l'ultima volta avevo chiesto, oh, cazzo. In base a quello poi avevo dato le sessioni, avete intenzione di tornare a fare rapporto, nel senso di restare nell'impero per adesso, di finire la, diciamo, la ruola meno, cioè io voglio fare il reward, sì, assolutamente. Quindi allora deve essere la base. La base si trova. Adesso tu mi dovresti aiutare, Salla, perché non ho capito la mappa della galassia bene. Però c'è Camino, che è arrivato in Rim vicino a, come dice il film, Rishi Meza, il sistema si chiama Rishi. Diciamo poco verso il centro, poco verso il centro della galassia, c'è questa base, diciamo, temporanea, quindi c'è questa tipo flottiglia di Star Destroyer e una base temporanea dell'impero. Mm-hmm. Sembra tipo le, come si chiama? Le stazioni, quelle lì di episodio 1, della, anche di episodio 2, della Confederazione Americana. No, ok. Cioè che c'è il coso al centro. Ah, la pallozza e la ciambella. Esatto, assomiglia molto a quella cosa, assomiglia. Okay. Solo che la pallozza al centro è un dodecaedro. Il famoso. Ben noto. Benissimo noto. Quindi vabbè, mi fai il giro di Astrogation, sì. Per andare verso là, verso... La difficoltà è geometria 1. È abbastanza vicino. Però come te lo dico, tiro di Astrogation. In base a cosa lo calcolo? Distanza. Come fare? Puoi fare in base. Ma i dati che quanto tempo ci mette lui? Cioè quanto fa a disposizione? E quanto è conosciuta la io ho l'applicazione. C'è un Android, si chiama RPG Dice Roller. Poi c'è la mia. E c'è quella, sopra, e c'è quella RIPGDR. RIPGDR ufficiale. Che però per Android non funziona. Ah! Solo per Linux, Mac e Windows. Dice si chiama Roller. Tu la RPG no, Dice Roller. Io non posso fare quello. In pratica, vabbè, mettiamo che comunque la conosci, sai dov'è? È vicino. Okay. Hai tutto il tempo. Hai tutto il tempo che vuoi, difficoltà 2. Però mi sa che questo non è... Due viole. Dove siamo noi? No. Devo aver sbagliato qualcosa. Un secondo. Però devi attivare la skill, se sei fatto la skill. Infatti non manca. Allora facciamo 1, 2, 3. Cioè, vogliamo di mettere la spunta per la sola che devi usare per quel tiro. Due successi. Ok, quindi vedi che... ce la fai benissimo, sai dove devi andare perché non puoi dire la nave ti aiuta, il tizio ti aiuta, ce la fai tranquillo. Fate un salto nel cyberspazio. Hop. Dopo circa, vabbè, fra circa 12 ore sarete arrivati. Quindi abbiamo 12 ore. Va bene. Perché è molto vicino. Ok. Ah, una cosa, perché forse chi non ci ha mai giocato non lo sa. No, questo è quello che ho fatto io. Andrea e Valerio, i viaggi nell'iperspazio, mm-hmm. Nel film, cioè, sembra che durano così, nel gioco durano giorni anche. Okay. Cioè, possono durare anche 7 giorni, può durare anche 7 giorni un salto, capito? Okay. Adesso, diciamo, il rapporto tra, diciamo, distanza sulla mappa e tempo, non lo so perché lo chiedo a Salla. Però sono meno giorni, se non è molto vicino, cioè, se non è proprio sullo stesso lato della galassia, la stessa zona. Boh, improvviso in vento. Ok. Sa, la RPG Destroyer non c'è, non so. No, c'è, ma non. Vezzi vostri. Sì, vostri, usate quella di Iaco. Fata di normale. Usate quella di Iaco. RPG. Se volete fare qualcosa in queste 12 ore... Sì, io vorrei riposarmi. Ad esempio quello, sì. Sì, direi... Ma che si può fare? Cioè, Dio, io qui... Allora, voi siete in una nave... A parte la volta che si sta... Siete in una nave, penso, smantellata della Repubblica. Ci rinzacchiamo in un... usciamo in un sole. Rimasto a bordo. Però potete, che ne so, esplorarla un po'. Non è enorme, non è come quelle, diciamo, complete. Dai, dai. Esplorarla un po', potete riposarvi. Cosa? L'applicazione. Giocare a quel gioco tipo con gli scacchi che ci è rimasto lì abbandonato. Veramente? Sì. Ma giochiamo sul serio dopo? No, non c'è la buchi di trama. Buchi di trama, Iaco. Però dovremmo fare. Allora, solo che devo scoprire leggere. Allora facciamo finta che non ho voglia di giocarci in questo momento. Esatto. Però lo d'occhio, dico, la prossima volta. La prossima volta vorrei che fosse pronte. Esatto. Esatto. informerò, cercherò di farlo secondo le regole. Vabbè, vedo se c'è nella, cioè, nella stiva, non lo so, in posti dove si accumulavano cose, se trovo qualcosa di interessante. Se funziona invece di posto, vabbè, ferite. Allora, un giorno mi recuperate un punto ferita in tutto stretto. Ok. Ma ogni giorno potete riprovare a fare un, cioè, una prova di medicina. Allora dico, medico. Sì, l'ho già fatta però la prova. Una volta a settimana potete provare a fare una prova di medicina per curare una ferita critica. Perché questa dura. Beh, ormai è andato. Okay. Cioè, quanto hai detto che dura? Ah no, io ho tutta la vita con questi cazzi. Recupero lo stress. Io mi sembra che l'ho già fatta. Ragazzi, in questo momento... non lo so, non sto capendo ancora. Dovando, cioè, stai andando verso la base, diciamo, dove siete partiti, della Comfort. Ok. In questo momento avete ancora addosso l'armatura completa, casco, tutto quanto, a parte lui che l'ha persa. Vedete che c'è solo lui, c'è solamente un casco che riesce la pappagoccia e questo è caduto. Subito. Quanto hai so che non ci siamo caschi benissimo. Ok. Queste informazioni di servizio. Beh, siamo su da. Ma dobbiamo tirare dadi alla forza? Sì, dobbiamo tirare tante cose. Ma non abbiamo neanche un dado. Dai, cominciamo con allora, cominciamo a tirare ognuno di voi dalla forza. Non lo prendo i dadi. Tiriamo i dadi. Se li rimane con due insieme qua. Ma vai, ce l'hai, te l'ho scaricato. Ah, è vero, scusa, me lo posso tirare. Un nero di obligation. Un nero. Devo dire obligation. Un nero. Facciamo così. Due pallini. Ma perché? Perché allora, tirare ma nero. Hai pagato. Allora, un nero. Bravo, sicuro. Un nero. Poi un bianco. Due bianchi. Che è successo? Poi? Un nero. Dagli. Un nero. Negro. Tre neri. Almeno. Tre neri e tre bianchi. Mi tiro io per cristiano. Ma gli ho già detto. Un nero. Oh. Per me tiro male. Oh raga, oggi sì. Oggi. Noi siamo neri, oggi. Giusto? Quattro neri tutti e neri. Tre light. Vedi a tutti? Sì. Ok. Ma mi dite i vostri punti di moralità per sicurezza questa, di questa sessione? Ta-na. Ma qual è una cosa importante che non ho detto. Perché era scesa la moralità? Un personaggio che usa la forza. Ah, tra l'altro anche il canto consolabile usa usare la forza, perché era comunque il libro lo stesso. Cioè non c'era un libro da masticarsi. Ah, okay. Tu no, il consolabile era scesa perché... Pure... Ah no, pure te. No, beh, io non so. Anche. Vabbè, comunque, vabbè, in ogni caso questa è la forza. Per comprare i poteri della forza, devi spendere expo. Morire, morire. Sì. Così faccio vedere. Andrea, sì, l'altra volta l'avevamo preso. Ho preso due poteri. Ah, due poteri avevi preso? Ma tu l'ultima volta ci hai dato qualcosa. Sono 10. Ah, sì, ma questo? No, non questo. Ah, io non li ho spesi. È un albero proprio. Ogni potere c'ha il suo. Bravissimo. Ogni albero c'ha il suo. Praticamente. Quello sono la vita di classe. Tu però puoi anche scegliere di comprare un potere della forza, tipo il potere che c'ha lui, Move, che sposta gli oggetti. Lui l'ha comprato con i punti esperienza. Ah, meglio spendermi 10 expo. Ma tu io sono altre cose. No, ok. Vabbè, però adesso non ti riguardi. Intanto non c'ho punti adesso. Già spesi quelli. Ho preso quello lì di schivare. C'è anche cura. Ma vedi, l'ultima sessione. C'è anche cura questa 15. Andrea, vuoi tu? Prendi poteri. Potresti comprarlo con quello. Allora questa 15. Te l'ho detto. L'altro albero, lascia perdere. Che ci fai? Fai solo una cosa. Prima di cura, anzi. Allora aspetta, esatto, ormai sì, ok, non c'ho punto, manca un ricordo. Allora, vieni un attimo, dovrebbe essere che Valerio era a 30, no? 27 per qui, non lo so, devo chiedere a Salla. 30. Andrea? Morality? 22. Quello è non so, l'altra volta ci hanno fatto tirare qualcosa forse. Sì. Vabbè. Avevo registrato quello che facevate e avevo. Ma tanti lo so già che sarò fatto tirare la sessione. Vediamo se siamo attivati le cose. Comunque, Salma. Non mi ricordo mai di tutta l'altra volta. Che ti avevo detto? Che mi conveniva continuare con. Vabbè, no, perché i 10 punti non li ho messi ancora. Che fate in queste 12 ore? Vado a cercare la stiva. Vabbè, io guido il maggio. Posso comprare? Ma è per una astronave nuova, no? No. Eh? È una astronave nuova? No. Cioè, vecchia ma nuova. No. Oh, sai che ho comprato gli occhiali da vista e sono identici ai tuoi. No, non sto scherzando, sei Tom Ford. Sono questi allora. Però blu. Cazzo, come hai fatto a trovarli? Non ci stavano. No, Marsiglia. No, sono ancora. Ma allora la nave, nave è una nave della Repubblica che lui mezza smantellata, come sì, dicevo sì. Lui quindi non è proprio nuova, cioè comunque stando ferma per anni si è un po', diciamo, quando lascia una nave a marcia, una macchina a marcia, una marmitta tutto come nero, una nafta, le cose. Quando tu vai nella stiva, quella che tu pensi che sia la stiva della nave, sì, la trovi praticamente vuota. Oh. Perché vedi che erano il contenuto era stato spostato in quei container che avete lasciato, ah, okay, che avete già cercato prima. Sì. Sta arrivando chissà, no? Okay. Andando in giro per la nave vedi che ci sono dei scheletri praticamente di cloni. Sì, cioè sembra che dentro quella nave ci sia stato proprio un combattimento. E ci sono delle armi, cose rimaste lì. Tutte? Eh? Sì, sono le stesse che erano nei contenuti. Abbiamo trovato un po' di soldi. Ah, beh, quello che aveva detto a lui, insomma, ah, ok. No, chi è che aveva preso le armi? No, come quelle. No, mi sa che hai fatto bene quelle come le nostre. Cioè, per quale le vostre? Qualcuno non aveva preso qualcuno l'arma? Io sicuro no. Ma sì, allora, no. Il quartier generale cosa ci ha detto? Ci ha detto qualcosa? Il quartier generale ha detto tornate, fate rapporto. Va bene. Nient'altro. Va bene. Rientrate. E niente, tu andando in giro vedi questi segni di combattimento. Ti sembra che sia stato un combattimento che è andato dall'esterno, dall'hangar, verso la sala di controllo dove hanno rotto la console un po'. Boom baby. E quindi non c'è niente, quindi boh, mi metto a dormire pure io allora. Ok. Ci sono gli armamenti nella nave? Armi della nave? Cioè le armi proprio della nave? Sì. Sì, qualche cosa c'è. Posso qualche fare un giro per controllare magari se qualcosa è funzionante, qualcosa non funziona. Ok. Allora vedi che c'ha... È rimasta funzionante un'arma, praticamente un fucile, non c'era un fucile, si chiamano le torrette laser, sarebbero. E vedi che i sistemi funzionano tutti, sono andati già morti, tipo ossigeno, e chiusa le porte, bocca a porta. Sembra il momento di vederlo. Non ha gli scudi. Però non ha scudi. Tu arrivi in una stanza, diciamo, addetta, perché poi vi spiegherò come funziona il combattimento spaziale che ho fatto. Oddio, che bello, speriamo che sia già altro. Sì, se c'è tempo perché finisce subito la sessione proviamo a farla oggi. Dai, però ci prego, no. Trovi che la stanza a controllo degli scudi dei defettori è quella di mezzi distrutta dai combattimenti, quindi non funzionano i defettori, ma c'è ancora un sistema di armi attivo nella torretta laser. Ok, va bene, questo è quello che capisci tu, che non ci capisci tanto di computer e di meccanica. Poi bombe. Io ho fatto il giro così. Hai fatto un giretto così. Qualcun altro vuole fare qualcosa? O... Io non faccio assolutamente nulla. Meditazione. Vedi, adesso nel tempo magari spazzo un po', porto i cadaveri di accumulo. Percepisco la forza. Oh, percepisce la forza. Sono tutto in forza, forse. Spoilers. Edo, qualcosa? Io, boh, io nel senso, io posso fare altro oltre a guidare oppure... Allora, salto in spazio non è necessario. Guidare? Esatto. Sempre dritto. Spazio è dritto. Allora, boh, sì, mi faccio un giretto. Ti fai un giretto? Un giretto per la nave, così giusto per niente di impegnativo. Allora, tu che sei più esperto, mi faccio tirare un cazzo perché... c'è molta esperienza. Dai, appena... Che il sistema di scudi è stato disattivato, ma... con, diciamo, qualche lavoretto di, diciamo, olio di gomito e qualche fonte di energia alternativa potresti riattivarlo. Come alternativa? No. Cioè, non è come l'hai tentato, ma... spazio velocissimo. Tirami quella di Viola. Cioè, scusami, fammi un tiro di mechanics con il sicuro che devo farlo. Va bene, lo faccio. Baradì. Che stava zitto. È velocissimo, quindi si mette le paleoliche d'energia. No. Scusa, ha ragione. No, aspetta. Diciamo le paleoliche solari. Tutto l'isolio. Ma anche solito per pianeta. Due successi in vantaggio. Successi in vantaggio. Sicuro che va sempre così di Russo Edoardo, questi tiri proprio. Kumba, io sono il nuovo te, però in meccanica. Allora, il meccanico che è in te sente un disturbo nella meccanica. Sì. E si dirige verso la sala motori, dove scopre che il motore del drive la sta per andare a puttane, insomma. Laurea adrenale. Allora triennale ti fa intuire che se non lo ripari in fretta potreste finire. Ma non sai come si fa. Potreste finire, diciamo, meccanico, immaginati il motore in probabilità di aver attivato il stoppisti. Potreste diventare una teiera o un divano. Vado a riparare l'iperdrive. O non ci provo. In base di fettui. No, in realtà, appena si rompe potreste finire in un pianeta o in una stella, però vabbè, non è una probabilità così. Ma in, che vuol dire? L'unico pensiero del basso proprio... dire dentro. Oh no, l'altro. E poi lo spiega perché, diciamo, un altro il motore iperspazio. Vabbè, diciamo che prova a ripararlo, perché... È vero, perché lo spazio forse... è molto più grande della stella. Ma non so. Cioè, nel senso, la stella è molto più piccola dello spazio. Ma cosa io? È molto poco probabile che tu esatto. Sì, ma Iago fa il master, quindi le probabilità sono altissime. Tu sai che è un rischio, Edoardo, perché tu hai fatto i calcoli di estimation. Vabbè, ciao Gri. Decisamente. Non sei tu, se hai fatto i calcoli di estimation, sai che c'è almeno un sistema tra voi e la meta. Sì, sì, ma potresti prenderlo in faccia. Provo a riparare il... Il problema. Sì. Se tu prendi... Essenzialmente è un motore vecchissimo. È un motore che non era stato acceso da anni e ha necessità di un po' di amore, diciamo. Che schifo. Nel senso che... Allora, sei fortunato perché in quella sala in quella sala c'è un kit di riparazione avanzata del motore. Sì. Spiego, ti faccio un'anticipazione. Praticamente questo kit ti permetterebbe normalmente, secondo il sistema modificato, di curare la nave di un punto, diciamo, trauma dello, cioè della scocca dello scafo in più rispetto al normale, perché tecnicamente tu per ogni combattimento dovresti curarlo solo di uno. Con quel kit, diciamo, lo usi e curi un altro punto oltre a quello. Quindi tu puoi curare il sistema dei due punti trauma rimettendolo in funzione, perché questo sistema particolare è danneggiato di due, diciamo. Poi vi spiegherò cosa vuol dire. Va bene, lo uso. Ok. Quindi cioè, usarlo equivale a distruggere, come fare lo steampack, capito? Sì. Quello è il senso. O uno di quei cosi che trovi la nostra, se lo mangi, non so. Quindi devo fare una prova di... Ah, ma... Ok. Poi vi faccio il riassunto. Ma quindi devo... Controllo mechanics. Difficoltà? 3, oddio. 3, però hai un... un animale. Un blu. 3 con un blu. Devo di cosa? L'attore. Vabbè. Ho fatto 4 successi e un vantaggio. Madonna. Praticamente nel tuo riparare questo motore sei talmente bravo che riesci a dare energia pure agli scudi. E andare più veloce. E ora sai che riattivarli è banale. Gli scudi defettori. Ok. Edoardo. Riattivo anche gli scudi allora. Sì. Va bene. Torno a pilotare. Credevo ti riferissi a Stefano. Quindi vabbè, per me adesso dovete riposare tutti, giusto qualcun altro. Recuperate un punto ferita, ricordate tutti gli strain, bla bla bla. Arrivate a destinazione. Appena uscite dall'iperspazio, un campo di asteroidi vi colpisce. Grande meccanica. Cioè, vedi che sono meccanico, mica pilota. Tu sei arrivato esattamente dove devi arrivare, ma per sfiga in quel momento ci sono anche un po' di asteroidi. Sì. Però gli spiriti effettori sono attivi, quindi, cioè. E se non fossero stati attivi? Vedi stronzo. Oppure magari ha distrutto Alderaan. Ah, no, infatti ho pensato che andare da morte nera. Distrugge la trama. C'è proprio un Kylo Ren. Ma non ti viene. Hai un gioco che ho usato per fare Luke. Ah, è vero. Edoardo ci ha salvato il culo. Wow. Ed era ma non lo sapremo mai. Ma noi non lo sapremo mai che siamo tornati. Stiamo facendo i cazzi nostri. No. La sessione è un po' sottotono, secondo me, perché non c'è matite. Perché non sono online. Sono... Perché come è una cosa intelligente. Pensavo ci fosse la gente con vestita da sera. No. E invece no. E invece hanno dei barboni. Esatto. Ah. E, va bene, ma riprendo. Sì, sì. Grazie. Dai, è questo campo d'asteroidi. Ok. Allora, sì, vi colpisce questo campo d'asteroidi e non vi succede nulla perché avete a giro di scudi. Cristiano, cosa è successo? Nel frattempo siete partiti verso la base, avete cercato un po' la nave per le cose, Edoardo ha riparato un po' di cose. C'è una gomma. Edoardo Saldatina ha ricevuto una chiamata, ha detto che Boba Fett non dirà l'impero dei casini che avete fatto, ma in cambio non volete dire dei casini che ha fatto lui, cioè anche quello che aveva fatto lui. E poi in futuro magari mi farà qualche favore, vi farete punti universitari. E siete arrivati vicino alla base, che è una specie di nave della, cioè la base quella della dei separatisti, cioè presente con la palla. Sì, sì, intorno, però la palla che sa, è un dodecaedro. Giusto perché non ci piace fare le cose uguali. E sì, anche in realtà anche quello intorno è un po' diverso, ma sti cazzi. Arrivati in questa base e c'è questo campo asteroidi che non mi fa nulla perché l'altro ha acceso gli scudi. E sente una basta a gasarte da no. Lui dice una chiamata che ti chiede il codice identificativo e scopo del vostro arrivo. Voi vola con non curante. Vabbè, no, niente, codice A trattino beta. 146 lo sai? 2 no. Vabbè, lo sai. Abbiamo capito. C. A. C. Ah, siete. 15. Siete soltanto 26 Combos. 8 9 io continuo a dire 12. Rock. Ecco, spoilerate. Questo titolo. Sento qua lo spoiler che mi arriva. No, ho detto il titolo del film. Questo si chiama Rock 2. Rock 2. Rogue 2 siamo noi in memoria, siamo noi. E avete niente, vi riconoscono, ah siete voi Comfort, ah, arrivate, cioè attraccate, vi mandano segnale da un, come si dice, da un punto d'attracco, da un hangar e niente. E okay, iemo. Ah, ok, ma andiamo noi a far rapporto, vai tu Andrea, cioè New You. Vai tu a far rapporto. Allora gli do la provetta. Missione. Va bene, mi maestro. Che prendi la provetta. Ciao. Ciao. Questa provetta è sbagliata. Cioè, tipo dentro c'è una manina che stava un gattino da giullare. Ti hai dato tipo la scatolina. Ping. Sì, ma solo lui a far rapporto, non ce n'è tutti. Sono Andrea. Sì, ci sta. C'è il capo. Vabbè, loro mi dicono. Cioè, di fare tutti i rapporti. In realtà, cioè, dicono tutti quanti di scendere dalla nave. Ogni soldato rapporto. Tutti i soldati devono fare il rapporto. Tutti i soldati. No, noi scriviamo le nostre minchiate. Tu fai il rapporto. Cioè, allora, cioè, tutti capo. Quanti dovete scendere dalla nave e fare il rapporto, tra virgolette, in caserma. Ma tu devi fare il rapporto al. Cioè, noi scriviamo le minchiate, tipo, okay. Mi sono trovato bene, il comando è stato molto bravo. Io maestro, invece di dire. Non vendere tu per rapporto, ok. Non ho capito niente, devi parlare forte. Un'altra cosa, il protocollo impone che non dovete mai togliere il casco, tranne che in caserma, tranne che dopo la missione quando vi dovete. Quindi, vabbè, tutti quanti. Ma io. Ah, sì, il casco c'è. tu il casco ancora c'è, l'unica pezzo che sono nudo ma col casco, una cosa. Con i calzini. La tutina della nera, un ballerino con il casco. Con i calzini però. Tutti a righe, brutti, con gli schifosi. Okay. Vai, vai pure, vai, vai. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tu vai a fare l'apporto e incontri il tuo, diciamo, ufficiale superiore. Che ti manda a cagare. Che ti manda a fanculo, no, non è vero. Che contento. Il tuo ufficiale superiore si chiama... Che cazzo sta? Lamassu. Lamassu. Già sentito da qualche parte. Lamassu. Cazzo l'ho scritto. Quella. Si chiama. Faso. Cantarvel. Con la K. Kanthar Vel. Questo nome mi è familiare, perché? Cantarvel. Esatto. Chi è questo, il nostro? Il tuo diretto superiore, è un ufficiale dell'impero, della Comforce, per essere precisi. La prima domanda che ti fa appena arrivi è... Che ne è stato della squadra di artificieri che avevamo mandato? Beh. Artificieri esplode. Field detention. Deception. Non ho visto nessuna scuola di artificieri. È vero, no, non l'hai visto io, l'ho visto io, non tu. Ci sta. È vero. Okay. Tu non sai niente. Ops. Che peccato. No. Deception, lui ti crede, fa ok, si vede che sono rimasti, diciamo, sono venuti in battaglia, ma ci sta. Che peccato. Loro erano circondati di stanza di riporto. Scusa? Loro erano circondato zio e numeri riportano, ti fa. Cioè, volete se siete solo di su, perché sono su tre. I numeri riportano. Cioè, fatto che noi siamo in soccorso. Era per equilibrare i conti, se no non riportava. La vostra missione è stata un successo e anzi, avete fatto ben più di quello che vi era stato detto. Avete riportato una nave della Repubblica che ora smantelleremo. No! Non dici niente, no? Non possiamo tenerci. Va bene, dai, cioè, per questa missione va bene. Cazzo, è nato. No, però è così, si fa cominci subito. Non possiamo dire, va bene. No, deve parlare. Esatto, fallo parlare. Amici? Esatto, dove devi forzarla. A tal proposito, visto che siete riusciti a niente da soli, portate a dire una missione, una persona molto in alto... Che sta facendo? Sta in bagno, ha trovato il suo computer. No, per favore. una persona molto in alto si è interessata al lavoro che avete svolto e come l'avete svolto, quindi vuole mettere alla prova. Interessante. Chi è? Non te lo dice. Signora. Deception. Se riuscite a portare a termine questa missione... diventerete a tutti gli effetti agenti dell'USB, che è accetto volentieri. Security Bureau. L'INS. L'importante è che nella prossima missione l'INS siate, diciamo, in conto. La descrizione è essenziale. Voi non sarete né soldati dell'impero, né Comforce, né SB, niente. Voi siete gente a caso, dei reietti. Perfetto. Dei rogue, in pratica. La vostra prima missione... Salla, stai perdendo gli spoiler. La vostra prima missione particolare... Speriamo il film adesso, poi... No, io non l'ho visto. nemmeno io. Ah, scusami, però noi saremo rogue, ok, nella missione è tutto, però questo ordine, cioè noi siamo sempre comandi di qualcuno che viene anche l'impero. Stacco. tipo come si dice, esatto, cambio di scena. Comunque sì, cioè comunque in questa circostanza sareste ancora sotto l'impero. Stiamo diventati dei francesi, diciamo. Siamo diventati, diciamo, stiamo per diventare dei francesi. Bureau. Bureau. Lisbo. Però in segreto. Vabbè, però comunque siamo all'impero, non è che siamo diventati i Cengi Camorri. I Cengi Camorri. Voi tutti, i famosi. Arrivate nella quella della maglia. No, no. Immagino che tutte le cose che avete, tipo che vi hanno dato, che avete trovato, c'è addosso. Ma che abbiamo trovato? Poca roba. Cioè io non ho trovato pezzi di spara laser, un tesoratore di magari. Già abbiamo due granate di blaster. Io invece questo. Ma tu chi c'è la blaster? Io c'ho uno steampunk. Io ho la blaster. Ma sentite invece una veste, cioè una veste. No. Ma che volevo? Voi arrivate in caserma e vi tolgono tutto. Se avevate degli oggetti prima, quelli che avete comprato quando avete fatto il personaggio, ce li dà. Come? Ora vi dà via quelli. Questo è un trucco della festa di Natale. Ma che cazzo è? È una notizia. Quindi scusami, non abbiamo né le cose che abbiamo trovato né le cose che ci hanno dato in dotazione, abbiamo solo esatto, quello che... solo quello che avete comprato quando avete fatto il personaggio. Ok, io non ho comprato niente. Lo puoi comprare dopo, nel senso... Non voglio. Come ci tolgono tutto? No. E vediamo. Ci tolgono tutto, come cioè, tu ancora sei lì, non lo sai. No. Voi altri che siete in caserma... Rodolfo, io so scende velocemente. Io non gli do un cazzo. Si ribelle. Cioè, lui arriva in caserma, ti pare danno. Ti cominciano proprio a togliere le cose di dosso. Prima l'armatura. Ma pure l'armatura. Tutto. Io mi metto il detonatore termico nelle mutande. Prova. Ma certamente. Però fallo se poi è un desiderio. Quanto è clippo? Voglio che dica. Vabbè, signore. Ma metterò. Ho un bel a posto del pacco. Esatto. Se esplode io fino a domani. Vabbè, se esplode è a posto. Se dai, fatto il cambio PC. Che cos'è? Cosa si usa come contrapposto Deception? Puoi usare Deception o Skullduggery? Questa cosa penso sia Perception. Sì. Quindi io devo fare Skullduggery? Perception che cos'è? È Cunning. O Perception, hai capito. Andrà malissimo. Dai, Edoardo. Di solito si usano i gradi di abilità come dadi rossi e i gradi di cunning. Allora come... puoi usare 30 di viola. Andrà malissimo. Cioè, se lui ha cunning 3, 3 viola. Se lui ha cunning 3 e perception 1, per esempio, poi hai uno rosso, hai uno rosso 2 viola. Sì. Allora fai uno rosso 2 viola. Madonna, quando ti esplode. Oddio, sì. Ma noi lo vediamo. Vabbè, non è che esplode, glielo vede. Despair esplode. Due successi e 3 svantaggi. Allora, riesci a te lo sei messo dentro, però poi non ti piace più. Quanti svantaggi? Quanti sono? 3 svantaggi. Ce la metti. Diventi sterile. Allora, diciamo che il successo è che ce la fai e lui non ti vede. Lo svantaggio è che la forma era un po' adeguata, diciamo, a infilarsi in punti non proprio piacevoli. Forse molto piacevoli, andrei così. Si incassa super il culo in sostanza. Cioè... Scusa, quindi se mancando avresti bisogno di un medico. Mi serve, come dire, un medico. Se sbaglio a togliere, esplodiamo in tutte e due. Figata prima, devi cagare. Esatto, al bagno. Stizio ostinata. Mi sembra perfetto, è bellissimo. Lo squadra. Non devo mangiare piccante. Un altro vuole nascondersi. No, che bello, steam pack. Cioè. Vabbè, a sto punto mi insacco pure le heavy blaster nel culo, tanto. C'è entrato quello. Ormai. È visto. Quello è tipo grosso. Guardate che le tue pretende che grosso quanto di globo senza il capo. Che cazzo. Mi hai fatto un bel sacrificio. Bravo. No, bello. Solo la parte sopra, non si sa se lo saremo mai. O è il mio di diritto. Nessuno lo toccherà più, sicuramente. Allora, niente. Si tolgono tutto. Cristiano rimane che bello. Con la maschera. La maschera per si è accugnato Cristiano. È morto. Cristiano, tu vedi Edoardo. La faccia Edoardo. Rossa. Bianca. Il despair, esatto, che sia un flashback visibile. Anche tu, il detonatore, vantaggio. E questo? Despair, il trionfo per affrontare. Infatti, mi sembra una moderna, non vedo un gioco. Quando si capisce il cazzo, vedi. Tu noti che Cristiano ti sta guardando male. C'è la male, strano. Cioè, guarda... in realtà tutti ti guardano strano. Tu non hai visto niente. Che si immagina Cristiano ti stia continuando a guardare male. Tarara. Tu non hai visto niente. Cosa credi a scrivere? No, gli dico... Allora, okay. Cut di nuovo, torniamo ad Andrea. Il tizio ti stava dicendo appunto che missione importante, bla bla bla, la vostra missione è trovare, è tipo la puntata quella di Futurama con la Planet Express, trovare quelli che erano quelli prima di voi, cioè la squadra che era, diciamo, aveva la sua stessa funzione, ma l'abbiamo persa di recente. Questa squadra aveva degli ordini direttamente dall'imperatore, quindi questo ti dà un indizio sulla vostra importanza futura. E l'abbiamo persa, abbiamo ricevuto un segnale un segnale di emergenza. Di stress. Dal sistema Renatasia, quel sistema abbandonato. La loro missione non era lì, perché il sistema abbandonato non c'era nulla interessante, diciamo. La vostra missione è andare lì, scoprire perché sono lì, cioè, se qualcuno è ancora vivo, interrogarlo, se qualcuno è ancora vivo ed ha disertato per l'impero, cioè il disertore, ucciderlo. Interrogarlo, ma poi uccidere. Anche prima ucciderlo, poi interrogarlo. Questa è la vostra missione. Potete usare la nave che avete trovato per ora. Quanti sono i membri che dobbiamo trovare? La nave che abbiamo trovato è una merda. Allora, la squadra originale era composta da un droide, un Cerean, che sono quelli tipo che ha di mondi con la coccia altissima, un umano e una Tripe. Perché come voi erano stati reclutati per sembrare non dell'impero. Non siete regolati per essere, diciamo, una cellula segreta di SB, okay, come voi. Quindi ci siamo abbassati a reclutare non umanoidi, insomma. Siamo abbassati. Come un certo... Poi ti guarda, si gira e si ricorda che tu sei uno Zabrak lì sotto. E quindi, un attimo... Sì, e quindi, niente, okay, questa è la vostra missione. E per questa missione avete comunque quindi abiti civili, tra virgolette, cioè abiti che si adeguano alle vostre... preferenze aspetto, e userete la nave che avete ritrovato per questa missione per vedere se giorno siete abili e degni di guidare quel catorcio. Quindi niente, voi in una caserma vi danno gli abiti che avete comprato o che non so, cioè abiti normali. Mm-hmm. E vi danno, allora, le armi che avete comprato, quelle lì, mm-hmm, oppure un blaster non dell'impero, un blaster normale, oppure solo. Oppure se non ce l'avete nessun altro, niente. Quindi mi hanno perquisito, cioè mi hanno requisito anche le V-Blaster, no? Sì, quest'arma è una vecchia, nel giorno di Ana. E ora è mia. Ma la stai usando? Il blaster è quello che abbiamo preso. Vabbè, blaster e pistol, tengo quella. Sì, diciamo, il trio le fate. Quella che abbiamo preso. È uguale, però non sembra il diverso. Ah, boh, vabbè, mi sembra il bastone. Prendi quella cosa. Vabbè, mi tengo il bastone. Io il bastone della stessa. Che non ha niente da nascondere. Proprio nulla, solo una pasticcia. Ok, questo è pisto. Vorrei arrivare un vecchio. Tu perché te l'hai sperato l'episodio che l'ha fatto? Sì, ma io pure mi imbosco la Spider Laser, scusa. Tu non sai ancora cosa perquisito. Non vorrai privare una ragazza del libro da leggere. Ti imboschi il pezzo di Spider Laser nei tuoi infanzati. Fammi un tiro di Scaldalgeri o Reception. Che schifo. Difficoltà 1 rosso o 2 viola? 1 rosso, 2 viola. Scaldalgeri usa o Reception. Tutte afficcassi le cose nel culo, cioè. Sì, ma scusa, un pezzo di spadaser quando non lo trovo, cioè, lo tolgo. Sappiamo che non piace, fosse più grande, fosse una spada laser intera, sarà meglio. Fosse una spada laser intera funzionante, gli taglio la testa, non mi prendi la spada laser. No. Due successi. Ok. Ma è due successi, Niente, perché è niente negativo? Ah, perché si resetta. No. Perché non l'hai messo. Che hai messo. Hai fatto due vantaggi qui, un vantaggio qui, e di negativo hai fatto solo tre svantaggi. Quindi si annullano. Ah, si annullano. Ok. I vantaggi. No, tutti siete esperti. No, perché non. Vabbè, vi piace mettervi le cose a lungo. Dai, vabbè. Beh, ricevete i vostri abiti e armi, diciamo, civili, tra virgolette. E andate. Quindi ho. Quindi anche le due granate mi hanno levato. No. Sì, cioè, sì, ti hanno tolto tutto. Vedi, meno male che mi sono messo nel culo del detenitore della mia. Meno male. Quello che guida penso sono di Daria. Che figata. Ci stiamo. Quindi non ho più i più due di soc aggiuntivo? Perché sta facendo distinzione di scrivere? No, sto scrivendo. Vuole darsi una grafia. Vuole darsi una re importante. Quindi non ha più il 2 di soc in più? Aspetta, il blaster è quello... Non avete più il 2 di soc in più. Togli il 2 di soc in più, maiale. Ma non ho una gomma, già non posso. Ok. Adesso avete il soc da vostro più ritornante. No, però questa cancella. Il blaster che possiamo prendere in prestito. Eppure le ferite, no, le ferite... Il blaster è? È uguale a quello che avevate prima, però sembra più civile. Preso un talento, Cioè, quindi sempre damage 6, range medium, Blaster Fiston. Dai, va bene, partiamo. Così quasi mi prendo quello. E qualche. Quindi cosa ti hanno detto? Magari un Zaprak più incolto se usa un bastone. Vabbè, dai, come pensando il panetto. Cos'è questo tipo, cioè, da maestro? Ti hanno detto qualcosa del DNA? Ah, il DNA, infatti non. Chi c'ha la provetta? Ah, sono quelli di me. Lui. Vabbè, gliela do, dico, abbiamo trovato il suo laboratorio. Sì, non si vedremo cosa farci. Vedremo nel piano dell'imperatore. Signore, ecco la provetta. Questa provetta. Cioè, neanche lui. Aspetta, perché abbiamo la provetta? Ma lui, loro ce l'hanno chiesto. L'imperatore l'ha richiesta. Che ne so? No, all'inizio loro. No, loro non ce l'hanno chiesta, però era il tizio che ci aveva detto di chiedere. Cioè, loro non so se ce l'hanno chiesto o no, perché non sentivano quello che ci diceva. Lui era là, cioè lui dà la provetta all'ufficiale, ha detto: ah, grazie, la riporterò all'imperatore che ne la chiedeva. Che schifo. Ah, quindi non ha detto niente la provetta, se l'ha presa e basta. Non ha detto nulla perché io non. Cioè, mi è giunta adesso. Non voglio sapere l'ultima indicazione. Devo portare all'imperatore, quelli sono gli ordini. No, oh mio Dio! Quando scoprirà che gli abbiamo dato un falso. Oddio, comunque. No, ma io dici qualcosa di questa provetta? Gli dico che l'abbiamo trovato nel laboratorio dove clonavano. Già, ok, grazie. Dai, che si figuri. Va bene. Che ci fa l'imperatore? Analisi. Giroscopio. No. Va bene, quindi ti ha detto qualcosa? No. Dobbiamo fare? Dobbiamo andare. Abbiamo una missione. Il sistema di Natasia. Si chiama. Ma quindi noi non abbiamo più comlink, abbiamo solo i nostri comlink personali. Quelli schifosi che fai pronto, ciao. L'unico comlink, diciamo, a lunghissimo raggio che avete è sulla nave. Ok. è lunghissimo. Se volete comprare un comic più a lungo raggio, dopo. No, ma più che altro non avendo si possono acquistare cose lì. Ah, se avete comic quelli stupidi. Ma che sono? Ma io ce l'ho comprato. Si possono acquistare cose lì, eh? Esatto. Cioè, sulla base no. Ah, no? Ok. Va bene, allora partiamo. Stai già dando un cazzo. È entrato bene. Sicura? Cazzo, vedi la voce molto più. Sì, sì, sì. La sento la maschera. Ma è terribile, Marco. Anche al microfono. Si sentiva anche al microfono. Ah, sì. Ma lui era nell'altra stanza, Perché ogni il microfono? Ah, c'è la maschera di là. Sembra che deve, cioè, non so, gli manca l'aria, deve respirare. Sembra l'ossigeno. No, va bene, partiamo allora. Partiamo, dobbiamo andare a... Va bene. Bla bla bla. Mai Natascia. Natascia. Natascia. Se qualcuno interessa cos'è l'SB, tutto ciò lo fanno. Ah, è una cosa. Non so, io non lo so, infatti. Mi interessa. Non gli ho chiesto a lui, però. Sei tu. Ah, certo. L'SB, ovviamente. L'USB. L'SBC, vero? Vabbè, chiedi a Sal, a Valerio, che lo sanno. Valerio, sì, certo, lo sappiamo. Certo che lo sappiamo. No. Certo che lo sappiamo. Ma lo so, lo so. Lo so. Io lo so. E dato l'SB, non te lo dico. Di, polizia imperiale. Ah, se sì, polizia imperiale interna. Beh, ma io non lo sento. Proviamo dopo. Vabbè, sti cazzi. Dobbiamo andare a comprare dei tizi. Trovate. È presente 1904. Insomma, recuperare che vuol dire? No. Morti? Orwell. Recuperare le palle di questi tipi? Una gamba? Se sono morti, sì. No. Ha detto okay. Che se sono desertori li dobbiamo ammazzare. Se invece non lo sono, capire perché sta. Dai, stringi, pilota. Esatto. Dai, pilota. Pilota, pilota. Yeah. È una cosa, tu, no, una cosa stai importante. Stai lontano da sala macchina. Ma, non posso mangiare tipo un po' di curry. Una cosa importante, ragazzi. Oh, profilo basso. Non scorreggiare. Profilo basso, solo di profilo basso. Chi possiamo uccidere e chi non possiamo uccidere? Beh. Nessuno. Chiamate qualcuno del profilo basso, non so dove è diventato un ragno gigante in mezzo alla città. Era quello che intendevo. E un minotauro ha cominciato a correre spostando gente. Va bene. Ma in campagna non possiamo uccidere nessuno. Non possiamo uccidere nessuno. Ho messaggio su WhatsApp. Solo. Aspetta, ma manca l'organizzazione. Ma hai detto che quel sistema è disabitato. Cioè, non è il blaster su stun. Oh, sì. Quindi in realtà. Anche di zona termico su stun. Esatto. Animali bestie. Easy. Ok. Grazie. Sapete cosa dovete fare? Sì, equipaggiare. Ah, easy. Vabbè, pilota, pilota, e tu lontano da. Posso scorreggiare? No. Le sta lontano da. Sala di pilotaggio, sale comuni. E puoi usare il bagno solo della miscela di salvataggio. Cioè, ma c'è il salvataggio. Puoi usare il bagno solo in capsule di salvataggio. Sotto vuoto. O nello spazio. Sotto vuoto. Posso fare una prova di meccanica per starmi a vedere amico qualcuno? Da solo. Puoi fare una prova per cagare il bagno. Cioè, tipo... No, mi voglio stare in piazza. Dai, pilota, cioè, pilota. Se così, dai, partiamo. Allora ce l'abbiamo ancora. Dai, pulmistico, muoviti. Allora, tu sali sulla nave. Pulmistico. Vedi che la console sta riparata da Mario Annelli mentre vi eravate in caserma. E non hai più bisogno del bottino. Non c'è più. Ah, detto tu. Ci sarei triste. Tanto fa cagare quella cazzina di sette. Sono presi. Allora, piccola anticipazione di come no. Funziona il sistema. Vai a cagare. No. Il sistema di vuoto, tra virgolette. Ognuno di voi è incaricato di un sistema. Sì, io me ne vado. Ogni stanza. Cagherò fuochi d'artificio. Sì. Quindi, se Luca manovra gli scudi, Luca sta nella stanza dove ci sta. Bravissimo. Cosa Cristiano sa esattamente come funziona. E quindi, ciao. Che se ad esempio abbiamo gli scudi e gli scudi si stanno diciamo danneggiando, sì. E tu non sei in quella stanza lì, non si ripara, non si riparano mai. No, sì, okay. Però, no, si riparano però molto più lentamente. Metti che stai arrivando dentro la nave, quanto... tu devi essere fisicamente nel luogo. Sì. Metti che essere più umani dall'altra parte e tu lasci gli scudi, sono più vulnerabili. Se okay. Cosa per il motore o per le armi. Quante stanze ci stanno? Allora, in questa nave, nello specifico, che vi dicevo prima, c'è una stanza per i motori, che è adeguata, diciamo, ai lato, cioè come mestiere. Una stanza per il pilotaggio, dove ci stanno un cristiano e un altro, per aiutarlo con i tiri di astroviation e altro. Una stanza per manovrare la torretta. Una stanza per manovrare i soldi. E basta. Perché il resto è o non ha, cioè non ha necessità di avere, diciamo, sì, qualcuno che lo tipo sì, la droga, ossigeno o no. Zona medica, sì, anche o un po' zona di qua non serve qualcuno. Ma potrebbe servire qualcuno che va lì a ripararli se danneggiano. Quello lo vedremo un attimo. Ci penso io a riparare. Tanto anche Cristiano sa come funziona, è molto simile. Okay. Un'altra cosa. Voi avete energia limitata, l'energia dipende dal livello del motore. Limitato. Potete scegliere di distribuirla nei sistemi come preferite. In questo momento non c'è problema perché l'energia che avete basta per attivarli tutti, diciamo al massimo della potenza. Ma limitata che vuol dire? Siccome so, tu hai 10 barrette di energia, quelle proprio 10 barrette. Se tipo nei Tower Defense quando devi fare il l'omino nuovo più potente, esatto, e sprechi le risorse uguali. Quindi 10, ma tipo al combattimento le perdi, come funziona? Il suo game. Allora, le perdi prevalentemente se ci dai, giochiamo a game, per favore. Perché motore per l'energia? Esatto. Tanto io le usi, se ti attivo un sistema, le stai usando, sono occupate, poi lo spiegheremo meglio. Quindi faccio l'accordo. Un'altra anticipazione, le vostre azioni, le vostre manovre sono come in un combattimento a terra. Le navi hanno pochi punti salute, pochissimi. Cioè esplodono, se riuscite ad andare attraverso gli scudi potrebbero esplodere con un colpo. Scusa. Ah, è molto. Che te gli studi, ne ho studi. Perché? Ma comunque, io farò così. Io vi farò un tiro di leadership iniziale, tipo vai, colpite, eccetera, e poi vi farò indietro, tipo mentre parlo e mi metto in una cabina di salvataggio in mezzo ai casini. Quando lo senti in quella volta, dicevo, voi avete manovre azioni come combattimento a terra, quindi potete usarle per fare cose nella nave, oppure avete quelle del sistema che state usando, poi ve le dirò come sono. Che non ne so. Potete anche inventare, in realtà. Luca mi dice, sono alla console degli studi, voglio fare questa cosa come azione. E gli dico, ah sì, come fanno a questo video? Potete pensare anche al sistema, quello che potete fare. Oddio, se mi piace. L'esempio più, diciamo, no, concreto di questa cosa, forse, è... Valerio che sta alla torretta, la torretta laser, lui che pilota, lui e Valerio... si mettono d'accordo perché magari la torretta, che ne so, è danneggiata, quel sistema è danneggiato, non riesce a muoverlo, come su Force Awakens, lui pilota la nave per far sparare l'aereo, quindi si sincronizzano i turni. Spoiler. Force Awakens! Capito? Ma sempre... non so se è chiaro. Sì, sì. Vabbè, ci vuole un po' di immaginazione adesso. Ma per dire queste cose... voi. Come? Per mirare tipo con la torretta ci vogliono delle cose particolari. C'è la vita apposta, Gunnery. Quindi conviene che lo fa qualcuno che ce l'ha, e non io, per esempio. È molto carino. Boom. Quando la passeggiata? Bene, ci siamo ripresi abbastanza. Ma tu stai bene? Niente. No. Andiamo avanti. Ciao. Dai, accelera. Pizza sull'acceleratore. Andiamo, partiamo. Teoria di Astrogation, il sistema in Atasia non è molto lontano, per esempio. Quando sono detto una torretta amico nel culo. Io ti dico, io faccio tanto. Che fa? Solo tre mie. Vai, mischiala con la mia, così possiamo fare. Stai poi a vedere il pilotarla. Quattro Alexei, cazzo, ma da Alex Space. Almeno sì. Ancora uno, sì. Perché... Vabbè, sto dicendo che non lo vedo. Fa schifo il cazzo. No, invece stiamo parlando anche di copilota. Non so se è peggio, perché ho detto un dottore. Questo è il pilota del termine. Ce l'ho qua. Cosa? Ce n'è quattro? Oh yeah. Ma sì, che per me c'è Hitler, meglio di essere internet. Io di ne ho due gialle. Totalmente ne ho due gialle e due verdi. No, le torrette non ci devo stare, che io ne ho due gialle e due verdi, o uno giallo e tre verdi, non mi ricordo. Quindi qua in cambio di pilotaggio, presto. Arrivo uno giallo e tre verdi. Quanto c'è? Uno giallo e tre verdi in Astrogation. No, stavo per sentire un po' di però. Vabbè, come fare? Ah, tu perché no, altro, no, il meccanico deve stare. No, no, guarda. No, io devo stare più vicino possibile a dove posso fare più danno. Vado. Via il biotato. Voglio stare da solo in quella zona. Perché? Sì, perché se scoppia tira contro verdi. Perché c'è questo astio? Due vantaggi e due successi. E poi mi dai più dati? Non c'è. Ma perché questa non è uscita niente? Ah, è vero, perché poi non è uscita niente. Allora, no, è facile. È tutto il tempo che vuoi, se non calma, se non ha base. Due di ora. Aspetta, però, visto che Mogo si è lanciato, tieni a mente, hai fatto due successi e due vantaggi. Perché ora sennò... Oddio, non è abbastanza lungo. Quindi successo intelligente. Successo e due vantaggi. Ce la fai, i vantaggi sono che... Poi ho già speso i punti di abilità di questa volta, quindi... Invece di metterci... Ah, sì? Devo spesa, quindi... No, invece di metterci... Questo gioco in meccanica. No! Sicura, 4 ore in meno. Bombe! Non recuperare. Scusa, come... Come si chiama questa? Io, ansioso. Ansioso? Ansioso, ma perché questo assio nei confronti di... L'uomo con la detto no, però parte. Ho paura dei giorni che si la donatori nel culo. Ah, ma non lo che recuperiamo, Ian? Mi sei dimenticato. Aspetta, ma chi lo sa che io ho detto le termine sul culo? Lui, perché ti hai visto. Solo lui? E poi lui l'ha detto a noi. Ah, lui l'ha detto? No. Ma tu quindi non gli hai detto niente. Voglio fare l'effetto sorpresa. No, ti sorpresa. Gin. Gin. Ma quindi è stato questo, però per il momento questo, ok, vabbè. Gita, però ci ha detto lui si è infilato in una donna nel culo, cioè noi lo sappiamo. No, beh, l'ha detto solo lui adesso. Solo a lui, ok, perfetto, non lo sappiamo, ma è meglio Valerio. Paura che non ci rimanerci anche io ma non voglio, cioè per una volta voglio fare il personaggio serio, comunque non ce la posso fare. No, cioè, io mi sei messo il coso del culo. Vabbè, cioè, tiro per... cioè non è che mi sono tiro messo, cioè, no? C'è finito. Tiro perception. Ehi, una persona deve vedermi come culo. La forza. Ma tipo, voglio capire perché Valerio e Cristiano evitano di darmi. Ma tipo il detonatore termico, cioè quando è... spento, diciamo, cioè tipo lampeggia, fa qualcosa oppure no? Però ha il coso di pressione, quindi in realtà magari si è acceso e quando tu lo toglierai esplode. Esatto, appena lo togli esplode. Vabbè, però se sono arrivato in cabina io è bellissimo. Allora poi no, tirami giù. Ti rendi va bene, molto bene. Quindi astrogato. Vabbè, ragazzi, è troppo curioso. La prima minaccia che avremo è perso il pilota di nuovo. Vabbè, vedi il piano. Povari. No, raga, anche se abbiamo conto tipo un ratto che vuole spararci, sì, penso che ti lo conto il detonatore termico. Sì. Così vediamo che succede. Vai, pilota. Pilota. Vabbè, la situation è successo. Arrivate dopo 20 ore. Fate qualcos'altro? Arriviamo al pianeta. Al sistema di vabbè. Allora io appena scendiamo. Dove stai? Natasha. Sì. Sì. Non scendiamo, dobbiamo arrivare al pianeta. Immagino. Ah beh. Cioè noi sappiamo che è sceso, un pianeta. È del morto. Cioè voi sapete che questo messaggio è sceso, così. E poi appena esco vedete dopo qualche secondo. Sì. La tenevo dal tutto il viaggio. Sì, no. C'avevo pochi d'artificio, regà. Sei come Mario. Come di Valerio, giochiamo proprio arrivati, siamo arrivati, lo metteremo a morto e chiudere. Come tipo si lua. Lo spariamo. Abbiamo oltre la paletta, abbiamo un'altra arma, ci mettiamo davanti. È vero. Io comunque lo spariamo. Va bene, no, dicevi, ci sono quanti pianeti? Ci sono, allora, due pianeti abitabili nel sistema della galassia, entrambi sono abbandonati, sono colonie abbandonate, e voi non sapete quale dei due è, sono Renatasia 3 e Renatasia 4, mi sembra, e terzo e quarto, e voi non sapete, cioè... Dio, quanto sei donna? Cosa? Niente. Vai, vai, vai. Sono per un direttante, Luca, si mangia tutto. Prego, pardonarsi, grazie. Come arrivate nel sistema vi arriva la, cioè, il messaggio quello di SOS che era arrivato anche all'impero e viene da Renatasia terzo. Vai, io andrei sul quarto prima, è una trappola il terzo sicuro. Va bene, dobbiamo andare, c'è una base di space adesso, vai in giallo, in verde, cioè un giallo e due verdi, in giallo due verdi, due verdi. E sfida due viola, vai. Due vantaggi? Due vantaggi, sì. Non riesci a trovare una traiettoria di discesa ideale, diciamo, per entrare nell'atmosfera. Però ti avvicini al pianeta e rimani in orbita. Riesci ad entrare in orbita. E nell'entrare in orbita ricevi delle comunicazioni dal pianeta. C'è delle comunicazioni dirette a te. Cioè, è successo il fallimento, c'è il vantaggio. Cioè, non riesci a fare quello che devi fare, però hai qualcosa. Però a parlare, salve, qui siamo i Rod 2. Spoiler. Esisto Rock 2. State cercando di comunicare con noi? Se esce, cioè, quindi se ti esce tipo fallimento di successi e ben prendendo due vantaggi è uguale a come in questo caso, solo due vantaggi. Cioè, praticamente non c'è rumore, cioè interferenze, cose, comunicazioni sul pianeta. Vabbè, usa i sensori per rintracciare da dove viene sta roba. Che sa se ha dei sensori questa nave. Ah, detto che sta. C'è questo sensore che... C'è una prova in computer, io posso fare qualcosa. Vai, vai. Vabbè, lo chiamo per l'interfono. Ma anzi, no, non farla perché è una cazzata, non la faccio. Vabbè. Scopri che il pianeta è abitato. Magari esplodi io. No, ok, il pianeta è abitato. Cioè, dalle comunicazioni capisci che quell'attività è... attività di un pianeta abitato, cioè okay. Proprio comunicazioni, trasmissioni radio, cose così. Ma è strano perché dovrebbe essere disabitato, cioè tu sai che quello è un pianeta disabitato, era un pianeta agricolo e dovrebbe essere disabitato. Che schifo. Con i sensori scopri anche dov'è. Pianeta agricolo. Da dov'è che proviene il segnale di soccorso? Su pianeta. Cioè? Zona equatoriale, non molto, non c'è. Ci sarei per passare sopra, insomma. Ma c'è un centro abitato lì o no? Dai sensori non c'è, vede che non c'è una città principale abitata, sono tanti villaggetti, tante, cioè, posti dove sono dei come si dice? Dei contadini. Scendiamo. Ma loro erano in nave? Loro erano una nave, quindi in teoria magari... Questi qui che so, sì. C'è una nave parcheggiata da qualche parte. Cosa? Cioè, vuoi chiedere se trovi i sensori? Se vediamo una nave parcheggiata lì vicino. Dove, Edoardo, hai visto che c'è il segnale di soccorso? Effettivamente c'è una nave. Vabbè, scendiamo. C'è una nave lì, cioè, corrisponde. Vai, rega, è la missione più facile della Terra. No, a posto. È talmente facile che non può essere una... Trappola. È una ciappola. Guarda, mi stiamo andando a fuoco. Fammi piloting planetari. Aspetta, questo è il mio. Tre verdi? Tre verdi basta? Due viola sempre. Come fai ad avere meno di me in pilotaggio? Chiedetelo a me. Perché non sono un pilot, una... scoundrel pilot, sono un scoundrel smuggler. Ma allora piloto io, perché piloti? Vabbè, ho pilotato tu. Stai calmo qua. Che significa, da? Due successi? È uno svantaggio, sì, due successi è uno svantaggio. Questa parte. Il successo è che riesci ad arrivare a terra, lo svantaggio è che non arrivi in maniera molto sincera. Arriva una botta a terra. Che mentre terra... perché piloti tu? Possiamo far pilotare quello di prima. Poi c'è qualcuno che riesce a stare dietro a... alle riparazioni meccaniche? Tanto la macchina la nave schifo, se ne fa. Sardi. Qualcuno che magari non è male. Allora, appunto, io non lo so. Se il mio pilota, io non faccio il copilota. Io non so che macchina. Ma forse potrebbe il copilota. Vedi, pare che rientra con la giacca. Allora, esattamente, noi appena. Andrò a fondo con la nave. Appena atterriamo. Io mi, diciamo, vado in bagno, mi leggo. Esatto, mi dilego un attimo e cerco di togliermi questo detonatore dal culo. Ok. Magari, magari utilizzando il mio braccio meccanico, che magari è più preciso. Voglio sapere come fare. Devi descrivere in maniera molto precisa come fai. Ah, niente, è l'unico modo possibile. Mi caccio la mano nel culo e stacco il detonatore. Sanità mentale. No, questo non è morto. Questo è il pancreas. Questo è il cenone di Natale. Vabbè, censuriamo questo episodio. Perché fa pubblicitario. Sì, ce la fai. Ma come? No, fallo tirare. No, fallo tirare. Uno strenzo lo deve beccare. Infatti, sì, no, cioè, dai, si sta mettendo una palla tira. Allora, l'estrazione in corpo strano, giusto? Accettare anche qualche punto ferito. Tira in medicina. Tiro in medicina? Un corpo strano, esatto. Esatto. Vabbè, è quattro verdi. Come? Ma questo c'è un altro attimo. È intelligenza, che qua? Difficoltà 3, viola. Non 3 viola un... No, Morto. Un fallimento. Quanti svantaggi? 25. Ah, ok. Vabbè, ce la fai. Dai, però ora ho fatto 3 successi in un svantaggio. Se tu vuoi. Dai, ci provo continuamente. Sì. Mi faccio tipo un po' di, mi ferisco un po' di danno, prendo un danno, cioè strain, punto di serie meno e lo fallisci, ce la fai, rimani che direi anche ci riprovo. Io direi anche ferite. Va bene, dai, cerchiamo. Edoardo, cosa stai facendo? Niente. Non perdiamo tempo, su, andiamo. Prendi un coltello, squadra. Siamo atterrati in un centro abitato, no. No, vicino alla nave. Vicino alla nave. Però scendiamo e andiamo. Allora, vedete che... Allora, posso fare una cometa? Cioè, siccome andate a prendere la sorella, ci metto 20 minuti. Facciamo che io vado dentro la nave... oppure sono delle spavoli. Facciamo che stai in nave e vai via. No, no, qui non voglio fare. No, che se non rompa la nave a prendere sua sorella. No, resto... Sono rotto 4. Facciamo che abbiamo vinto la missione. Ehi tu, resta sulla nave. Ehi tu, resta sulla nave. Vabbè, io resto un attimo nella nave nostra e comincio a preparare già le coordinate per partire. Per la propria sorella, ok. Per la no, per aver rotto tornare sulla... Per avere una... Una bucarapola. Una faccio un video dietro. Quindi allora, sono subito. Sono qua. Partire in ah, sì. Partire... Tu vuoi partire in questo spazio con la pianeta? No, vuoi fare una roba fare... Sì, sì, sì. Ah, ok. Ma in qualche cosa sarebbe spazio... Solo gli altri, solo altri. Beh, era messo il mio Jerry Spot. Resta sulla nave. Che anche ero a tu anno quando... Partire da di questa... Va bene. No, scherzo, no, qualcuno mi va... L'ha chiamato WhatsApp, tipo? Cioè, ma una chiamata normale o una si può fare? No, vabbè, anche tanto. Cioè, per me è quello normale, non c'è niente. No, ma pure niente. Allora, tra un po' ti chiamo, prima che me la sera la sento sta, poi... Tutto a posto. È impazzita. Sì. Se fosse andato, saresti già tornato. No, vabbè, tra un po' ti chiamo. Va bene. Non cazzo, però, poco. E che nave è? Iafra, quanto posso riprovare a svuotarlo? Domani, basta. Basta. La volta che lo fai, cazzo è, cioè, dai. Tanto sei già mica, un cyborg. Sì, ho capito, ma mica cammini, cioè, non riesco a camminare con... cazzo tu! Cioè, vado in giro con niente. Te la sei voluta mettere nel culo, non te l'ho detto io. No, cioè, non diciamo che non era il mio obiettivo. Non te l'ho mica detto io di mettere nel culo, va bene. E... Sì, anche è divertente perché muore poi direttamente. Esatto. Allora dicevo che beh, tipo di nave è? Sì, quello nome se lo trovo. Sì. Perché... Poi meccanico keeper 2, fate una keeper 2, fate una trasmissione dentro la nave, vediamo se qualcuno risponde. E che gli dico? ho una grata in culo. Una grata. Cosa gli puoi dire? Ciao, chi siete? Rispondete. Cioè, va bene, faccio una trasmissione con la nave da dentro. Vabbè, cazzo, l'ho smesso. Ehi, lo fai, sai, parlare al capitano. Vabbè, okay. Io appiccio la trasmissione e poi parlo il capitano. Se non ce la picchiare comunque 6 minuti per quello non devo almeno velocizziamo la cosa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Io ho un problema. Sì, ma non è che adesso c'hai il pacchetto la sei messa dentro, quello è il problema. Cioè il fatto di mettersela, non che ti è rimasto. È l'idea che tu... perché io volevo mettere nelle mutande, non nel culo, poi so che nave è. Grazie. praticamente si chiama Penumbra, è una classe tipo Freighter, cioè quelle lì simili a, come funzione simile a quelle di, simile alla classe di Millennium Falcon, quindi tipo da, come si dice, trasporto così, però stealth. Vedi che ha una forma che sembra, è presente quella, non parlare di inculare. Ha una forma tipo più a triangolo, cioè sente quelle tante fighe, sembra tipo quella di episodio 1, quella tutta accettata, non capisco episodio 1, però ho capito, sì, ma così grande, no, quella di Naboo, sei via voce. No, un pochino più grande di quella nera, tutta nera, va bene. Fatta tipo caccia stealth, capito? Non sapevo niente. Non so come scrivere. No, non... No, non mi sono notato. È che è un cazzo di Lumia. Aspetta, adesso senti? A posto, mutati tu, va bene. Cosa diventi? Un grande classico. All time classic. Allora, fai una trasmissione. Trasmetto. Che devi trasmettere? È pochino tu di parlare. Che devo dire? Che ne so io? Chi siete? Che buongiorno. Chi ha detto di fare la trasmissione? No, sarà messo di fare una trasmissione. Ho trasmissione. Ma pensavo quello là dentro, no? Ti ho superato in comando. Maestro, perché vuoi fare una trasmissione? È per vedere se c'è qualcuno dentro. La nave. Pronto? Non c'è il campanello. Quindi mandi un segnale radio dentro la nave. Allora sarà anche il comlink, quello lo scout. Scout. Vabbè. Ok. Prova. Di qualcosa. Dai, meccanico lavora invece che... faccio la trasmissione. Ah, cioè, no, è cazzato, mi sono parlato. Allora parla. C'è nessuno a bordo? Nessuna risposta. Siete sicuri? No, sì, non c'è nessuno. Dai, ragazzi, andiamo su. Cazzo. Bene, apriamo sta cazzo di porta. Esatto, andiamo. Edoardo va avanti. Lasciamo Cristiano sulla nave. Toc, toc. Siamo rimasti sulla nave, prepara tutti i calcoli, le cose, le punto a partire subito. Toc, toc. Il portellone è aperto, cioè. No, allora la nave è adagiata su un fianco e c'è una questa nave. Com'è stato? Cosa c'è dentro? Non è buono, no. No, no, c'è la cocaina dentro. Cocaina pressata. Quindi se lo è... Ma sicuramente sarà abbandonata. C'è uno squarcio sul lato della nave, solamente il lato che va verso di voi, quindi potete entrare da lì. Non c'è, da questo, diciamo, punto di vista, non vedo niente particolare. Cani rognosi. Dove entriamo? Prova a entrare con una torcia. Ah, tipo Alien. Tipo c'è Prometheus. C'è una nuova. Lo tocco. Esatto. La tocca. Dovrei provare sta roba. Allora, entrate dentro. Il premio Prometheus. A prima vista sembra che la parte dove sei, cioè dove stai entrando sembra che sia stata esplosa dall'interno. Ah. Come se qualcuno con un ritratto nel culo fosse tornato. Esatto. Ah, si è il tocco. Esatto, questa è una tasca del futuro. Futuro. Perché ci sta, che vediamo dentro quindi? In quella zona squarciata non vede nulla. Cioè non c'è nulla di particolare, c'è tipo pezzi di fusoliera, tipo fusi, cioè. Dai, si può andare, si può andare oltre, cioè si può progredire. Sì, sto la vedi la porta. Cioè la porta che si apre, in generale è tipo mezza fallata, quindi si apre e si chiude proprio passare. Si là, si apre e poi cioè. Ah, vabbè, allora no. Io pure sto. Ok, tu vedi prima Valerio che ti passa avanti, tipo la porta si apre, ripassa e si chiude. Poi si apre e non c'è più Valerio. No? C'è ancora Valerio di dietro, però. No, Dio, no, Diego, queste cose, grazie, sono morta. Ecco, ok. Ne so di scherzoni. Quindi, di là che ci sta? Di là c'è, vedi sulla sinistra, un, come si dice, una sagoma per terra. Una sagoma? Dai, medico. È un cadavere? Medica. Hai la torcia? Poi... No, io non cazzo. Vabbè, la mia presa, cioè ce l'ho, sì, ma... Sì, cazzo, hai la torcia, lo illumini e vedi che è un attimo... Ma non ci sono luce, comunque. Mm. Che sta tipo distesa, cioè messa tipo con la schiena al muro, le gambe distese, e sta tipo così. Posso capire com'è morta? Se è morta. Sì. Ti avvicini, quindi. Ah, sì, vai, vai. Scusa, ma io sto vicino così. Momento di attenzione. Cioè, voi due state entrando. Mi avvicino piano piano, capito? Attenzione, mi guardo intorno, vedo se vedo qualcosa. Allora, per un piano non c'è neanche tiro di leadership, si trova lei. No, vabbè. La sua sinistra, cioè lei sta tipo spando. Oltre c'è un droide astromeccanico, un astrodroide nero, che sembra tipo mezzo esploso con un pezzo che... Che esce tipo. Vabbè, la missione è compiuta lo stesso. Ma quella da pistare a chi invece? Da pistare a chi? Guarda, ho solo quei due dei tizi, una Twilight e un droide. Quella ma ancora altri due da trovare. Oppure. Vabbè, due già. Come ti avvicini una Twilight? Tipo ti avvicini, punti la torcia. Non so dove. Esplode. Cioè, tette. Nulla da lì. Sulle tentacole, non lo so, ma dimmi tu, cioè ti avvicini, la esamino, vedo l'esami. No, dottore, cioè sei migliore, è importante. Vedi che ha una ferita di blaster molto grave, circa c'è qui, addome, cioè sì, come Cristo. E sta vedendo appena di pugnato in faccia con un colpo di tosse, quando si sveglia. Non Lucaz. Che è successo? Giustamente. Vedo se rispondi. Dobbiamo interrogarla. Portiamola subito dal. No, tu sei il medico. Scusa, sono il medico. Il medico è così. Oddio, ricordi passati. Non ti E allora niente. Se sta così, cerchiamo di un sacco di cazzo. Non ci sta. Ci metto un sacco di caricasse sto coso. Però se n'è andato su. No, che sei cazzo. E allora la pigliamo, dico Luca, prendilo che sei, la riportiamo nella nostra nave. Cioè, quindi non la cioè, non mi fa niente per adesso. Ma io c'ho lo stigma che me l'hanno preso. No, vabbè provo immediatamente a dare cure di primo soccorso, quindi a bloccare. Vai, tirami medicina. Sarà il kit uno in più viola. Ok, allora. Una ferita critica? Dipende da quanto è grave. Uno? Uno. Un viola? No. Allora, io devo mettere. Però non ridà punti ferita. Vuoi curargli la ferita o dargli più punti salute? Perché puoi scegliere solo. No, voglio stabilizzarla per non farla schiattare. Quindi la ferita critica. Sì. Giusto? Sì. Allora sarebbe due viola. Perché di cura? Perché sei curato? La ferita normale. Perché uno l'abbiamo interrogato. Se non è un disertore, non riesce a parlare. Dove è stata colpita rimarrà tipo una cicatrice o qualcosa del genere. E la voglio solo stabilizzare, non è che la voglio curare. Cioè, non è che se la lasci non curata ti peggiora. No, cioè in teoria no, di solito no. Tipo, tu hai una ferita critica che magari non so, è uno sfregio in faccia, per esempio, che ti dà meno 2 a tutte le prove di. Sì, di presence. Però non è il primo nel tempo. nel tempo, se non la cui. No, cioè ti rimane quella ferita critica di... Allora puoi curare Cook Salute a meno della metà. Ah, se quella non muore io non gli faccio niente. Secondo te... Cioè in realtà se è sotto lo zero perché è svenuta ne ha tre. Ma più uno perché non ha merit. Giusto? Ah, raga, questo è no, molto sono difficoltà 3, 3 più 1 perché non ha merit 4. 4. Se invece sta 0 è 2. Quello. No, uguale, 24. Se ha più dei suoi punti ferita, non so se è più uguale, è 3. Aspetta, si dice cioè, quella in metà. Vabbè, fai il tiro con 4 viola, mi vicino. 4 viola? Vabbè, è un tiro normale. Vale. Dai, ti do una mano. Scusa, no. No. Ah no, a me c'ho due gialli e due verdi, quindi... Più che altro, magari io... Tu hai una mano? Vicino, che ne so, la posso fermare... Ma questo per farla sopravvivere. Quindi tu la fermi, la tieni ferma, mentre lui cerca di curare... Svenuta, puoi tenere. Allora, se ha... Ecco, se allora, se... No, però no, magari mentre lui la... Se ha zero preciso, è 2. No, allora, ok, 3 viola, allora. 3 viola, vabbè, allora... Metti un attimo azzurro. Perché? Azzurro, perché lui la tiene ferma così fai niente. Ah, perfetto. Allora vado. Due successi e uno svantaggio. Grande. Lo svantaggio è che rimane svenuta, non riesce a farlo venire. Due successi di cui due punti fermi, adesso sta a 2. Ok. E vedi che comunque è servita, la dai fasciata, la dai a Luca, giusto? Sì. Luca la porta alla nave. E poi c'è il droide. Il droide, voi siete entrati pure? No, non lo so. Boh, sì. Che fate? Sì. E io chiamo Edoardo. Come ti chiami tu? Gin. Io chiamo Gin. Dica? Vieni qui. Arriva. Io controllo l'aria. Arriva. Fuori la Roger, Roger. Tiro, percezione. Vai. C'è cosa cerchi in particolare? No, dove siamo atterrati, un po' la zona intorno, noto qualcosa. Cosa? Non lo so, qualsiasi cosa. Movimenti? Non lo so, cioè... Sì, intanto, ma scusa, c'è, cosa c'è? Foresta? Ti devo descrivere tutto? No, però non devi dire. Allora, siete atterrati vicino a un campo di grano. Minato. Minato, no. Quindi davanti, vedi che dietro alla nave un campo Naruto voi c'è un campo di grano enorme, cioè il campo di grano campo minato, campo Naruto. Dietro di voi dove avete dove siete atterrati voi c'è un campo che non è stato segnato. Okay. È un pianeta agricolo, quindi diciamo che ma hai fatto l'upgrade sul gioco Empire. In lontananza vedi i monti a sinistra e a destra. No, sono entrato nel culo. Ma non passiamo a tirare su di morale. Questo è quello che pensavo. Se dici qualcosa di più specifico, io invece entro e mi guardo intorno. Se hai dato lui? Sì, ma se dopo c'è un'altra via e se le luci si accendono o no. Allora, dentro la luce lampeggia, c'è una luce rossa che lampeggia. Ok. Ok, voglio fare un tiro per vedere se magari ci sono tracce di. Cioè. Di esseri viventi, nel senso, magari c'è qualcuno è passato in quella. Okay. Recentemente, sono tracce per terra, non so. Ok. Proprio del genere. Tirami Perception o Survival? Difficoltà. Trovo Survival. Survival dove sto? Ah, guarda. 3. Sei fottuto. Puoi scegliere come vuoi. Che culo. Ma scusa, dove la partite, sala da Roma? Non riesci a... Da Roma partite. Bologna. Bologna. Vai venire a no. Non riesci a capire bene cosa è successo, ma... Cioè, non capisci bene pressione... O così c'è cioè... un di Bad francese storia tristissima. Sì, sì. È strano perché tu non ce l'hai fatta quella di vantaggi. Io non so cosa dirti. Che cosa? Io ho cercato di. Se cioè ci sono magari tracce di passaggio. Non di trovi qualcuno... tracce particolari. Ah, magari vedi qualcos'altro. Tipo, non so, mettendoti nel lato tot, vedi bene la situazione se dovesse arrivare qualcuno. Oppure sì. Ho visto che Salla si sta per inciampare all'interno del queste cagate qua. Okay. Niente, vabbè, tu mentre cerchi delle tracce di roba, di animali o di esseri viventi, si trova in una posizione particolarmente vantaggiosa per controllare, tipo una roccia lì in mezzo lì, okay, al campo, per metterti per controllare il terreno. Okay. Va bene. Tocca, diciamo, allora, tu stai entrando, Salla, volevi cercare altri... Se io volevo andare giri avanti, all'interno, se c'è un interno della stonata. Come? Cosa? Sì? Sta arrivando la comunicazione da... Ah, ok. Ho detto, ragazzi, sto arrivando, avete scoperto qualcosa. no, niente, abbiamo portato una Quillec in sulla nave. Che c'è? E ora... Tu vai avanti, arriva ok, in cambia di pilotaggio, quindi fra 3 secondi arriva. Okay. Non sto capendo i livelli di meta in questo momento. No, la trippa. Arrivi in cambia di pilotaggio, no, okay, trovi c'era un morto. Un? C'era un morto? Sì, c'era quelli con la testa grande. Perché c'è un altro. È al posto di pilotaggio. È una granata nel culo. Come me? Capisci che ha tentato, è morto, cioè sforzandosi, lo vedi che proprio è, cioè, arriva il mortis che proprio vedi che sta con la coscia. Cassandra va ad avere una casa nel culo. C'ha... Ma lo squarcio della nave è molto grosso. Mm? È lo squarcio che c'è nella nave è molto grosso. Sì. Ok. Sembra che ci sia stata un'esplosione dall'interno, come dicevo a chi... Okay. A me, sì. Dalla cabina di pilotaggio tu puoi accedere agli schemi della nave e altre cosette, insomma, dell'equipaggio. Sì, io pistolo un attimo, vedo se c'è tipo scatola nera, ste menate qua. Ok, dopo ti dico, tu? Io anche in realtà vorrei... Considerando la mia abilità, dico... Com'è che ti chiami? Gin. Gin, lascia perdere il droide scorciato, vieni in sala comando e vieni a zappinare con queste cose. Sì, infatti era quello che volevo fare, lo raggiungo. Niente, pare che ti lasciano da solo. Oddio, che ansia. Quindi non c'è solo questo corridoio buio con qualche flash di rosso. E Lucodis. Tu stai portando. No, tu stai portando la tizia. L'ho messa tipo. Tu comunque dalla tua conoscenza a base. Però non l'ho legata. Mi sono messa davanti. Non l'ho legata. Non ti piacciono queste cose? L'ho messa tipo là per terra. Una cosa la sto sorvegliando, però. Okay. Cioè, cazzo, da una Twi'lek che c'ha due di salute, meta, esatto. Molto bene. Così. Tu, dalla tua conoscenza base dei droidi, capisci che questo droide non si è rotto da solo. Qualcuno gli ha sparato, ma qualcuno ci ha armeggiato dopo aver sparato. Qualcuno prima gli ha sparato e quindi aiuto, è esploso. Non c'è senso. E poi qualcuno ci ha armeggiato dopo e ha cacciato un modulo, che è quello che penzolava prima, che penzolava da fuori... Quindi ha preso l'informazione, come fa? Sì. Immagina che dalla grotta sopra c'è un cavo che esce e una cosa attaccata sotto, che pensa? E ovviamente lì non c'è rimasto più niente dentro. Dentro cosa? Scusa? Cioè, l'hanno preso qualcosa dal droide, quindi. No, hanno solo semplicemente estratto questa cosa che è attaccata al. E a che serve il modulo? Quindi lo prendi in mano? Sì. Lo guardi un attimo. Lo guardi un attimo e non riesci a capire benissimo a cosa può servire. Diciamo che lo tengo per dopo. Il tiro di computer. Per mo ci provo, però al massimo. Dai, devo fare tutto io, dopo lo guardo io. Mi raggiungo. L'intelletto. Il pure. Che di computer che è? Cioè. Intelletto. Ah, beh, forse sì, ma vedo. Aspetta. Cazzo, perché lo vedo sempre? Quando è la difficoltà? È esaminato quello del computer. Difficoltà 3. Quello lo vedi, insomma. 3 viola. E uno nero. 3 viola e uno nero. Un po' esaminato, un po' sporchetto. No, un insuccesso è un vantaggio. È un vantaggio. Un successo è che non ce la fai, il vantaggio è che lo ripulisci un po', quindi il prossimo c'ho più che facilità. Ce la faccia è più facile che capisca che cazzo può servire. Edoardo? Ne ha lavato il lato con io. Tu non devi fare nulla di particolare, perché c'è... appena arrivi... Prima di tutto noti una cosa strana. Qualcuno ha aperto, cioè qualcuno è entrato e ha armeggiato con la console dopo l'atterraggio. Sono stato io in realtà, tipo cancellato. Era video di sicurezza, io. Cancella. Vieni qua a vedere che non sono pratico queste cose. Okay. Il registro? Sì. Provi a accedere a qualcosa, non so. Ma boh, sì, provo a vedere magari quali sono state le ultime trasmissioni mandate barra ricevute, l'ultima attività della nave, proprio a livello... Una videocamera. Siamo una videocamera. Non c'è la ragione per capire il delitto. Sì, sai. Esatto, fai un po' di... Allora, ci devi fare un tiro di computer difficoltà 2, con la scontata, però vabbè. Allora, lo so, non serve a niente, ma ti lo smetto. Basta. Allora, perché si avvicina a un computer e il computer apre le sue gambe. Computers, non sono a livello di Luca. Come sei messo al computer? Due gialli e due verdi. Ah, ok, però, 4 gialli. No, però dopo un sacco di esperienza. Cioè, tu hai sia computer che Kumba. Kumba, certo. Ah, no, quando lo so qui, ha solo computer. Kumba. Non è giusta questa cosa, esatto. Kumba. Kumba. Difficoltà 2 hai detto? Non ci credo. Hai fallito. Due vantaggi e un fallimento. No, cioè, guarda quello dopo. Vabbè, mentre stai arreggiando con il computer, si rompe la granata. Esatto. No, yeah, dai, no, fianco, mentre se mi armeggiano il computer ti fa molto male la gara del culo e quindi ti stai un attimo e... Yeah, la tua applicazione è fallata. Ho truccato i risultati per stare in realtà. Esatto. Se lo diceva Vigilio. Ma aspetta, sei sicuro che è attiva l'abilità? C'era lo spunto? Vabbè sì. No, semplicemente ho messo due gialli, due verdi e due... Vabbè dai. Allora, è un vantaggio però? Due vantaggi. Non riesci ad accedere alle comunicazioni da e verso la nave con l'esterno o a, diciamo, piano di volo ben preciso, cioè qualcosa così. Però tu sai che gli ordini non erano di andare nel sistema di Natasia. La nave è sposata all'interno, che è quello che stanno già loro praticamente. E scopri anche che c'è una registrazione audio della cabina di pilotaggio. E riesco ad aprirla? Sì, eh? Quella sì. E tu smetti a prendere, non te la... Senti dei rumori. Vabbè, tanto da stare via. Capisci che quella registrazione non è completa perché è rovinata, ha dei punti che mancano. Ma riesci comunque a rimettere in ordine tecnologico. Ok. Allora, la prima cosa che senti è una voce, diciamo, maschile, un po' strana. Che dice qualcosa, tipo che non riesci a capire bene, e poi due parole che invece riesci a capire benissimo, che sono destinazione sbagliata, altre cose che non capisci, poi senti la voce di un droide, che fa bim bim bim bim, e tu lo capisci perché parli il vitale, non so, sì. E capisci che sta dicendo, che sta dicendo, questo è contro gli ordini dell'imperatore, riesci a capirlo bene perché bim bim bim, non è che poi, diciamo, cioè, non si può modificare molto. È una cosa abbastanza facile da discernere da tutto il casino che senti intorno. Dopo questa cosa, senti un'altra voce maschile, diversa dalla prima, che dice Dakar. Dakar. Senti solamente la parola Dakar. Dopo, c'è cioè, un secondo dopo che dice Dakar, c'è un'esplosione. Senti un'esplosione enorme. Ma aspetta. Ed è dentro di te. Ma stavo chiedendo. Ma è fuori, dentro la registrazione. Aspetta, in che piano della narrazione entra? Dentro l'audio. All'esplosione. Okay. Rumore statico. Ok. E l'ultima, diciamo, cosa che senti nella registrazione è qualcuno che dice questo è un ammutinamento. Oddio. Una voce maschile. Che è Dakar? Che razza è? È un nome. No, che razza è la voce? Quella che senti? Cioè parla benissimo. Allora, la voce tu sei di ascoltare? Sì, c'è cioè, la voce, sì. Allora, quelli che stanno a ascoltare mi fanno un tiro di lore per capire a chi appartengono la voce. Va bene. Siamo fottuti perché non ho niente. Cazzo, io c'ho più. Fate io ce l'ho. Idea. Sono giallo. Ah beh, cazzo. Beh, difficoltà? Però sei ancora... io non l'ho sentito. Difficoltà? Allora, le voci sono molto distorte, però facciamo due viola e uno nero. Sì, un po' tutti. Anzi, no, flippo. Uno rosso, un viola e un nero. Sì, un po' tuttissimi. Quello sarà flippato, cazzo. Un rosso, un viola e un nero? Ora avete 5 punti d'arca. Aspetta, un rosso, un viola e un nero, hai detto? Uno. Sono fottuto. Un vantaggio. Due fallimenti e uno svantaggio. Sono due voci maschili. Ma sicuro uno umanoidi, saranno saranno, non sapete chi, cioè non sapete chi è chi, però saranno un cereal, non si cazzo si dice, un umano. Quindi l'umano che non c'è qua è l'umano che è che comunque il cereal è parla quindi abbastanza umano, cioè non so come lo stronzo, lo stronzo. Quindi scusa, Adimundi è morto, uno abbiamo noi dovete stare così, l'umano l'abbiamo trovato. Sì, l'umano non l'abbiamo trovato. Io intanto ho detto che andavo di là a fargli vedere sto cazzo di modulo. Lo stacchi? Sì. Come lo stacchi, Cristiano, la comunicazione si interrompe, quella emergenza. Lui arriva, credo, cioè Valerio ti porta a sto coso in cabina di rodaggio. Bene. Fammi un tiro di lore per capire se tu senti chi, cioè riconosci le voci. Piripipiripi. Ti dà sto coso. Scusa, sul computer erano, mi sembra, due viola almeno prima. Non lo so. Non mi ricordo. Non tiro di computer. No, no, no, tu devi farmi un viola, un nero e un rosso. Edoardo, mi devi fare due viola. Non mi ricordo se erano due o tre. Oh, che cazzo, un trionfo, un successo. Un vantaggi e uno svantaggio. Un trionfo? E un vantaggio. No, però se da, il trionfo sarebbe compreso. Se te fai in... Quindi tre successi, vabbè, sì, ok. No, faccio come tre successi. No, no, no, dico, aspetta, vabbè, perché a volte l'applicazione... No, no, va bene, è un trionfo, un successo e un... Tu invece? Io ho fatto un trionfo, un successo, esatto, e un vantaggio. Sì, non sono due successi, capisci uno di questi... Che quel modo è stato estratto dal droide, da un droide, usato per inviare... Sono due successi di quegli uno. ...riutilizzando... Ah, tre. Questo, perché? Mi pare... Ma capisci anche sì. Che... Ah, sì, sì, esatto, sì, sì, sì. Stava cercando di mandare una comunicazione prima di esplodere. Stava già provando. Tu invece riconosci che la prima voce qua. La prima voce che senti è di un cereal, come dice destinazione sbagliata. L'ultima è la voce dell'umano, quella che sta ma una e cosa dice la Carla anche è l'umano. Ma il droide stava mandando il messaggio di soccorso e poi è stato ucciso. Tu dal modulo capisci questo, cioè nel senso che qualcuno l'ha proprio strappato dal droide e l'ha usato per mandare un altro messaggio di soccorso. Magari ha della gente che non ci trova un cazzo, cioè in che senso? Semplicemente cioè, il droide stava per mandare un messaggio, qualcuno l'ha ucciso, cioè l'ha distrutto, scusami. Mi ha mandato come un messaggio nel cuore di K2 e ha estratto questo modulo e l'ha usato per mandare un messaggio di soccorso. Però tu non sai, non riesci a capire se quello che voleva mandare prima era uguale a quello. Ah, ecco, ok. Questo è una trappola. C'era scritto: non venite, è una trappola. Era cambiata. Venite, non è una trappola. Non è una trappola. Vabbè, io gli dico ovviamente che ho sentito chi era chi, insomma, esatto, che Dakar e l'ammutinamento ha detto l'umano, quindi probabilmente quello si è ribellato. Va bene, io gli spiego solo del droide. Andiamo a vedere se la tizia si sveglia. Magari. Ok. Andrea, tu? Io sono di Vedetta. Sei di Vedetta. Esatto. Ma non posso sapere... Di percezione. Non posso sapere se questo nome mi dice qualcosa o no. Dakar? No. No, no, ho sbagliato. Una corsa. Allora, tanto storia che non no, okay. Se tu ci vuoi provare lo stesso, vabbè, se non posso sapere. 5. Difficoltà? Vabbè, cioè, se non posso allora, difficoltà 3. 3 viola? Penso che sia un tizio famoso. Che cazzo 3 viola non era su. Allora, no, non ti dice niente a te. Niente. 0-0, 3 vantaggi. 3 vantaggi. Allora, tu non capisci bene, diciamo, cosa sta succedendo, ma c'è del movimento nel campo di grano. Quindi a nord, cioè sì, dall'altra parte della nave. Quando e tu sei sopra la roccia e senti tipo cose che si muovono. Quanti vantaggi? Cioè, quanto long? Quanto vantaggi? tanto lontano. Però vedi, cioè, roba che si muove. Ok, allora tu invece Salla mi fai un tiro di... Vabbè, tu no, perché c'è l'amnesia. Tu mi fai... Che c'è? No, aspetta. Eh? Tu da dove vieni? Dal pianeta quello di Zabrak? Sì. Nella tua vita hai mai tipo studiato geni, cose riguardanti la forza? Poco. Poco, cioè, una cosa che ti è venuta la forza, sì, diciamo. Che schifo. Mi sono venute delle mestruazioni. Perché? Okay, no, non puoi sapere. Vabbè, ok. Quindi niente, da Carr non mi dice un cazzo a nessuno. Tu hai finito, mi fa? In che senso? Ti analizza il coso, ti analizza... Boh, sì. Tu stai nella nave? Sì. Ma ci dici che c'è il movimento? Eh sì, c'è. Sbregut. Usciamo. Usiamo il detonatore. Al nord. Usciamo, preparate. Ma l'altro cammina male, quindi c'ha un po' di problemi di manovra. Oh, non possiamo qualcuno che tu, medico. Spara. Verso quella Twi'lek, vedi se riesce a... E non c'è la Twi'lek, però stiamo uscendo. Ah, noi usciamo dall'astronave. Cambia qualcosa? No, cioè, si chiudono le porte e non c'è nulla. Ah, tu sveglia la Twi'lek. Buono. E gli altri, tu prepara il detonatore. E gli altri vediamo se qualcuno dal campo di piano. Tutti ci mettiamo a guardare. Ricordati, tu non sei dell'impero. Ok, me lo ricorderò. Non sei, non sei malo, sì, no? L'informazione. Ma lo scrivo proprio. Devo dire. Ah, ma anche a quella glielo posso dire? No. Alla Twi'lek. Non dire niente. Ma quella. Tu vedi. Oh, sono gli ore. Vabbè, sono... Okay, sei d'accordo. Tu che devi fargli le domande, non lei che quindi non io non posso fare anche il saluto perché sennò mi sgama. Tutto nella nave. Vado dalla Twi'lek. Voi altri andate a ricerca. No, io sto lì fuori e aspetto per vedere se dal grano si muove qualcosa fuori. Okay. Quindi scusa, se mi dice così, posso uscire e poi lo controllo. Sì, sì. Vedete qualcosa? Vediamo qualcosa? È preso colorito. Un colore molto acceso, lo posso dire. No, non lui, noi. Voi? Sì, tirami di percezione. Difficoltà? Pure io. Stavolta te lo stai indicando Andrea, appunto, quindi te. Tira pure io? Almeno. No, no, per un altro, che ci faccio? Minchia, che sfiga. Stasera tre di no? Allora, due successi, vabbè. Sì, quattro fallimenti. Bello, bello. E, wow, direi tre svantaggi. Oddio. Come? Scivoli dalla voce e fai terra per i nostri. Un successo e uno svantaggio. Un successo e uno svantaggio. Con due verbi, dai. Uno svantaggio. Facciamo uno svantaggio. Muore. Io sto sforzi per di mostrare. Guarda, ecco, mi sono appena ricordato cosa devo tirare all'inizio della sessione. L'obligation. Anche la precisa. Però pure detto. Che 10 ma 15 poi sono parati. Sforzi troppo la vista e ti viene mal di testa. Perdi uno strain. Vabbè, per questa sessione facciamo che non si è attivato. Nessuno mi sto a dire. Certo. Cazzo, mi devo ricordare perché ti lo sveglia. Ma te l'avevo detto, ti detto devi tirare l'obligation tu, tiriamo da dio fuori. Certo, Salla, ti ascolto. L'obligation è la... No, tu non hai l'obligation. Allora... No, si è attivata la sua, è vero. Perché era per l'obligation? Perché no, vabbè, è l'ossessione, cioè, diciamo, molto spesso è un'ossessione. Ma no, che poi la mia, no, lui è lì in cammino, quindi l'altro... ma tu hai roba di più geni. Tutto a posto? È morale. Sì, tu è morale. Posso farmi lo svantaggio? Però tu non rientri in questo tiro, insomma. Io mi sarei comunque messo in posizione tipo con la mira, quindi avrei preparato l'azione per sparare. Facciamo tipo che... Per sparare cosa? Non devi niente. Lo so, però io mi sarei messo... So. È presente tipo quando si mettono sulla dietro le gambe della nave. Sì, tutto questo. Facciamo tipo che mentre riesco però a guardare... Cosa, devo scoprire cosa che vedere, non sto coperto per eventuali persone. Bene, vai! Comunque. Il metodo, sono ossessionato. Ok, lui è sotto, cioè non riesce a entrare in copertura. Non sono in copertura. Luca vede il suo tizio. Ah, che vedi? Ah, chi tizio? Si vede praticamente una figura muoversi nel grano. Ragazzi, c'è una figura che si muove nel grano. C'è una figura che si muove nel grano. Ragazzi, comunque sono troppo a nord. Prego. Praticamente una frazione di secondo in cui questa figura passa nel solco che lascia della nave in mezzo al campo. Vedete? Okay. E quindi riesce a intravedere un altro momento. Maestro, che facciamo? Che culo. Lo seguiamo, lo inseguiamo. No, tu sei... Lui corre via? Lo vede, basta. Sta correndo. Ma verso di noi o...? Così c'è perpendicolare. Ma lo vedo anch'io? Quando lo indica lui, già non è più, diciamo, visuale. Però comunque distanza? Riesce a seguire il fruscio nel grano. Distanza lunga. Ok, seguiamo. Andate lì? Sì, corriamo. Tutti? Io sono sulla nave. No, io non potendo correre... Qua, magari. Non ci sta una persona che domanda. Stacco, Cristiano, tu sei molto agitato perché hai rivisto Eduardo. Valerio, quindi avrai un tiro, cioè un dado nero a qualsiasi cosa fare adesso. Ho tutto nascosto. Che culo. Cioè qualsiasi cosa, tipo di smantelloso. Valerio, la Twi'lek sembra si stia svegliando. Cioè sta riprendendo conoscenza. Buongiorno. Allora gli chiedo se riesce a parlare, gli dico che cosa è successo. L'abbiamo cioè trovato. Che riesce a parlare? Sì. Vedo, tipo, cioè, un attimo, cosa, dove sono? Così sveglia. Siamo atterrati su questo pianeta, abbiamo visto la vostra nave distrutta. E siamo entrati a vedere, abbiamo visto che c'era un droide distrutto, il pilota morto e tu in fin di vita abbiamo cercato di... Lei tipo prova, mentre parli, prova tipo ad alzarsi e tipo, cioè, non ce la fa tanto con la ferita, sa... No, non capite, è pazzo, è impazzito. Chi è impazzito? Dai, è impazzito, tipo comincia... Dovevi trovarlo, dovevi ucciderlo. Dove è andato? È scappato. Dove? È scappato, non c'è, continua a dire, devi trovarlo. E insomma, tutte cioè... le culle. Le culle. Le culle. Vabbè, ci penseremo noi a trovarlo, se ci puoi dare indicazioni su dove può essere andato. Lui era qui, ha sopperito all'imperatore, voleva cercare Dakar. E chi è Dakar? Vedi che... Se sei Arnold, tipo. Il labirinto. Vedi che si zittisce e fa... Non lo so, forse il suo contatto, non lo so, ha disertato, ci ha traditi, ci ha costretti a venire qui. Ma voi che ci state facendo? Ci ha costretti lui, è stato lui che ci ha ingannati per venire qui. Ha disobbedito gli ordini diretti all'imperatore. Bello, mi sembra un po' ripetuto. Ma io non posso capire se sta mentendo, tipo quando dice che non sa chi è da quello. Prova, sì. Devi fare. Le punto una pistola alla testa per renderla più... Ci sei. Beh sì, io non sono andato con loro. Ah no, sei andato con lui? Io ho detto rimango con lui, sì. Ok, no. Ho detto non riesco a correre. Che devo tirare? Come? Che devo tirare per questo? Mi sembra Perception. Scusa. No, lo faccio scrivere. No, per capire quando qualcuno ti sta mettendo... Discipline, no, forse è Perception. Penso sia Perception. Question? No, Perception è bello. Question è il contrario. È il contrario, cioè quello che devo dire. Perception. Cioè, in questo caso qui, Question. Perception sono una merda, vorrei. Che abilità è Question? Willpower. Willpower? Ah no, Question, scusa. Cool? Cos'è? Infatti no, non è, cioè non sono Question. Cool è... Sono figo. Sono esatto. Due rossi. È finita. Ti piace. Io devo fare Perception? Ok, ma perché non ci sono... Ma se tipo invece... Ma se no la posso torturare. Va bene. Tipo gli do una botta sulla ferita dove gli hanno sparato, gli dico a dimmi cosa? La verità, stronza di merda, dove cazzo sta da gare, cazzo è? Mi piace, vedi, stare cattivo, ma scusa, devi capire se questo che cos'era, questo non c'è una decisione. Questo è quello che sta mandando, ma non mi importa, io gli do una botta sul fianco e gli dico dimmi che cazzo è, dove sta? Lei dice ti accusa al corpo, tipo così, cioè, e no, non posso flippare, me lo dice chi è? Anche perché deve essere calming, sicuramente. Cioè, forse può flippare. Puoi flippare per fare magari ci vuole provare. Per fare un po' più preciso. Diciamo. Vabbè, allora faccio questo. Ok. Ora avete quattro la Dark Side. Se le sparo un piede, lei sveglia. Sì, questo colpo. Lei, cioè, accusa molto e fa: no, non lo so, giuro, ne ha parlato mentre stavo precipitando, non lo so, deve essere il suo contatto. Di che? Non lo so, di ribelli, non... Guarda, c'è strontate questa, e invece non te la trabotta. No, trippa. Cioè, gli stai trappando sulla ferita. Che cazzo, no, non parla. Ci penso io. No, però mi è piaciuto perché vedi, stai leggendo la cattiva, cosa che non abbiamo fatto in campagna. Provo a estrarmi una tolta e devo trovare il culo. No, dentro la nave di Cione. No, bravissimo. Vabbè, questo sta qua. Per far paura alla tipa. Cioè, mostra lì. Se io non gli potevo dire che era del coso, non te lo dicevo. È colpa tua. Bravo. Che sai, può essere anche lei. Cioè, anche lei. Sì, guarda. Vabbè, e intanto che mi seguiamo? Ah, voi se state inseguendo, cioè, voi tre. Un, due, tre. Comincia a capire dai movimenti che fa sto tizio davanti a voi nel grano, che non ha una direzione ben precisa. Dove andare? Cioè, sembra un po' perso, diciamo, questo. Sì, ma lo raggiungiamo? Sì, sì, sì, sì. Lo raggiungete dopo, non so, 30 secondi, un minuto massimo. Cioè, ma per raggiungere cosa intendi? Cioè, nel senso, se lui è nel campo di grano e si è fermato, che ne so, al frigorifero, questo è qua, cioè, lui sta lì. Mm-hmm. Sapete che si è fermato lì e questa distanza c'è da fare. Ok, e chi è? Un umano? Tra le spighe lo vedete, umano. E, giovane, vecchio, armato, quarantenne, vestito da smuggler. Ok. 40 anni circa, nel senso non è molto giovane. Sì, e si chiama smuggler. Male. Asiatico. Ultimi di lavoro. Spoiler di Rogue One. Cioè. Eccolo. Fammi dei dati di Star Wars. E niente. Prima i negri, poi i cinesi. Non capite benissimo perché, cioè. È ancora un po' semicoperto, diciamo, dalle spighe. Sta guardando, tipo, vede che sta nervoso, sta venendo così con la testa e sta guardando. Ma voi ha sparato di una gamba. E se mi saltassimo addosso? Sì, vai easy. Io vado. Certo? No. Cioè, boh, sì, se volete. Anche tipo. Sì, però certo, c'è un po' di vantaggio. Con la mazza. Stertiamo. Io il bastone, compa. Giallo e blu basto. Difficoltà? Boom. Già la difficoltà. No, potrebbe essere contrapposto. Come vuoi. Se no è la sua abilità di perception. Fammi la sua abilità di perception. Perception era coming. Difficoltà 3. Minchia, ok, mi sa mi back. Un successo e uno svantaggio. 4 Boom. Successi e un svantaggio. Luca. Che devo fare io? Non avevo questa che non c'è. Cioè, io lì. Aspetta, fermi. Io gli sarei tutto addosso, ma proprio senza avere. Noi tutti siamo. Anche perché tu con la stazza. Con la stazza qui non è che. Come vuoi. Qualche... Però non so magari se lui dà l'ordine. Se no, diciamo. No, va bene. Noi siamo lì stesse. Cosa ti può sparare così? Lui si gira, cioè ti sente arrivare, fa, ti punta la pistola e fa: fermo, dove sei? Non mi fermo per niente. proprio vabbè, intanto noi gli stiamo dietro, tipo ci arriviamo dietro in stand. Vabbè, allora la situazione è questa, c'è lui che punta a Luca che ci sta facendo due, quei due, da chi, cioè da dove sta venendo Luca che sta di stand. Tiratemi il culo. O vigilance. Che sarebbe? Che sarebbe? Scelgo vigilanza. Gli ho chi due sei? Gialli, due verdi e un blu. Perché un'iniziativa, cerca la vita. Okay. Due gialli, due verdi, un blu. Dimmi. Dimmi, dimmi. Cool. Presenza. No, sono 3 successi e 5 vantaggi. Un successo e 2 vantaggi. Allora, comunque, che... tre, cioè così? Con viola, viola e nero? No, no, vai, tira con viola. Cazzo, vabbè. Ciao. Ciao. Buonasera. Ciao. Ciao. Buone feste. Buone feste. Ciao. Ben giornato. Grazie. Ciao, Ben Angeli. Sono arrivato. Ieri. 3 vantaggi. Tu? 3 successi e 4 vantaggi. 3 successi. Bevi, bevi. Salva, vai tu. Vada lontano. Una moca. Sta puntando la pistola. Prendo la pistola. Forza. Non puoi usare. Prendo la sua pistola e il suo bastone. No, prendo solo la sua pistola. E tu ti fai tirare contrapposto. Discipline. Come vuoi, puoi scegliere tu. Devo dirti quanto ha discipline in caso. Fare no, è tipo, può essere tipo forza se la tiene forte, o prontezza se è veloce. 3, io. Sono ancora forza. Ho fallito. Fai due vantaggi. Diciamo che riesci a far tagliare. Esatto, quando vedi lui che tipo punta a te, poi fa tipo, tipo così e punta al grano. Osh-tru. Tocca a te, Luca. Allora, io non, chiaramente non ho tirato la. Fuori il bastone, io sto proprio saltando e dando un cazzotto sulla testa. Stai caricando bene. Dagli un cazzotto sulla testa. Onesto. Sei engaged praticamente. Ok, faccio quello, però io non so come funziona con le mani nude. Come funziona? Allora, tu praticamente c'hai un'abilità che si chiama melee e un'abilità che si chiama Brawl, esatto. Quindi sai Brawl se non stai usando un'arma melee sulle tue mani. Se usa il danno che fai dovrebbe essere il tuo punteggio di Brown più uno dei successi, giusto Salva? Ok, da lì, cioè con le mani. Sì, va bene. Quindi io faccio questa. No, ho sbagliato. Cane. Cane. E... no, dai. E la difficoltà è Jacopo? Difficoltà in game? Beh, Salva è 2, giusto? E 2, sì. Prendo solo dei punti, dai. Meno un'armatura, quindi due precise. Diciamo. 3 successi. 3 successi, sei quindi fai 6 danni. Meno 1 perché è quello del... esatto, però. 6 danni. Gli fai 6 danni. Lui quanto ha di soc? 5. Come seria? Ma su un dash tangerà il soc. Ti ce l'ho. Sì, però mostra. Si è dato il cazzotto per bestia. Fino a ma mille, che è stato iniziato? Esatto. Allora, un tizio è diventato brunetto. Sembra tipo un quarantenne, cioè abbizzolato, tipo un po' mad, giovanissimo, vestito da smuggler. E adesso che tu gli sei di sopra, praticamente, vedi che la mano destra ha la pistola, la mano sinistra ha un oggetto luminoso. Ha un oggetto? Luminoso. Che cos'è questo oggetto? Un dodecaedro luminoso. Bello. A chi tocca? Tocca Andrea. Cosa c'è? È presente. C'è un cazzo di olo, però. Non esatto. Okay. Vabbè, sì, è un olo. Che è un olo? Un olo in mano. Ok, ma tipo Luca gli sta proprio sopra. Ora lo ha solo colpito. Cioè, lo carica gli sta sopra. Gli sta praticamente quasi appiccicato. Cioè, ah, non l'ha buttato a terra. Non l'ha buttato a terra. Si può fare, cioè, quello devo chiedere, cos'è una cosa diversa? Però... sì. Cioè, invece di farmi da un attento, certo, ok. Devo fare quello proprio. Tipo, per buttarlo a terra, cosa dovevi tirare? Per buttarlo a terra. cercare di buffare. Forse lo stesso, sai? Secondo me la è Brawl. Sempre Brawl? Brawl, sì. Però forse diventa tipo un tiro contro un posto di Brawl. Sparo. Sì, secondo me viene. Un po' sì. Come gente ha provato la prova di un D. Sì, però ci sono più possibili altre mosse. Sì, ma se io sto cioè se set, schifo, e lui non mi ha visto, c'ho qualche vantaggio. Vedi? Cioè c'hai dei vantaggi. Ma perché c'è una mela di roba con internet, cioè, internet che sei fermo puoi girare. C'è una mela di roba con internet, beh, abilità, tutto sta. Se vuoi hai un blu, sono quattro live con D&D, però basta, siamo uno che vuole fare, però sei a show, se prendo tantissimo, parli con una medium da shot, penso tu abbia tipo un c'è un modo per fare qualcosa di stupido, e avessi un violato e qui vieni no, io più l'altro cioè, secondo te se tu spari no, ma io tanto, uccide tanto, tanto non c'ho la pistola, spari a shot, sì, no. Light no, c'ho il bastone no, infatti stavo, mi conviene tipo cercare salla, cioè, se faccio salla short, no? Se faccio school dag tipo quanto short? Però che rubagli quello che c'è in mano. Ma no, glielo fottete dopo. E allora che faccio? Non lo pisco. Sì, picchiate la sua. Due? Non è uno? Cosa? Sei un fucile medium, range the light e spara una short. E due. Max Riddle è un fucile medium. Ma scusa, io vorrei short. Fargli se light per ucciderlo. È uno. Eh? Vorrei interrogarlo prima sì, di ucciderlo. Cioè, perché uno aspetta, short che short, sarai sei uno o due. Short, cioè short con fucile short. Short of short deve essere tipo non posso arrivare a dire cercare di soffrire. No, ma c'entra quanto è pesante l'arma. Ah, okay. Non posso arrivare. Sarà male se spari vicino al più te uno, sarà male pesante, spari vicino al più te uno. Bro, non c'è niente, non c'è caratteristiche. Sì, penso che regge sia un po' arrivare. E sono anche pesante. Perché non ce la fai? Tipo c'è un cecchino che è pesante. Spari da vicino, non ce la fai. Snap, cioè. Te sei stato uno stallo. E vediamo. Vediamo un attimo. Oddio, devo aggiungere più allora. Che sparare. Ma io non posso sparare. Quindi sono... Ma sei molto. Cioè, e almeno per altri 10 giorni. Vabbè, dai, niente, prova... Mazzo. Non so, gli arrivo dietro e provo magari... Beh, andare a Bologna prima, però... Oh, lo colpisco... Oh. Per farlo cadere. Ma non c'è la split screen, non so. Sì. Ancora. Col basso. Cani. Uè. Ti dove? Tira Meli con difficoltà 2. Schifo. Bellissimo. Niente, fallito. Due fallimenti e tre vantaggi. Tre vantaggi. Se vantaggi lo sbilanciano molto e riesci a. Oddio, con tre vantaggi è critico. A parte un po' però, no, mai. Non credo, sai. Io sì. Ah, forse sì. Sì, però non ho capito. Quindi con tre vantaggi riesci a farlo sbilanciare. Non prende la mira. Cioè, riesci a prendere la mira la prossima volta. Che dici? Poi c'è un nero. No, nero è troppo poco forse. Un branzo. Ah, aspetta, devo tirare anche un azzurro. No, no, ci sta un nero. Vabbè, lui c'ha un nero per sparare al prossimo turno. Avanti. Tocca a lui, mira a Luca perché è scemo e Luca gli sta davanti del grosso, quindi focus al tank. E tu vado un po' a colpire, sono un po'. Senti. Te l'ho beh. No, ma infatti non, non serve che lo colpisco, tanto non posso colpire. Nero, abbiamo detto. Sì. Ti colpisce. Devo ti fare fa, altro, capito, siete a tipo 2 metri. 7 danni. Orco. E aspetta, come si toglieva il suc, poi? Ma spezzatemi una gamba, no, infatti mi ha un po' rotto le palle, adesso non mi e il colpo ti fa derreggiare e perdere equilibrio. Sul piede. Nero... Senti la roba, che oggetti ci sono nei dintorni? Per terra c'è qualche sasso. Un bello grosso, silhouette. 22. Silhouette, granché. 1, 2... Cioè, mezzo al campo di lavoro, no? Va bene, attivo move. Un nero. Gli prendo l'arma. Ok. Come prima, difficoltà. 3. Cioè, quest'arma non ti piace che c'hai in mano? No, non mi piace. E... però mi piace che sta facendo roba genica e tutto. E? Due trionfi. No. Se non c'è Harry Potter, quindi un po'. Era bellissimo. Ah, ok, ci sono. Tipo tre prendi l'arma, no, no, no, ci sono. Prendi l'arma, la fai verso di te e ti colpisce in testa e ti... Ma raga, ma che cazzo state a fare? Ti... Annucca, cioè... Oppure mi fa dei danni, non so. Mi stordisce. Ti stordisce. E cade a terra. Vabbè. Zup, zup. Ti stordisce per il prossimo turno, non sei molto... Va bene, ci sta. Ok. Luca. Lui non ha più un'arma. Porca. Come? Allora, lo atterro. No, devi pestarlo a sangue. Oddio, allora va bene allora. Dagli le botte. Ti ha fatto 7 danni, roba che... Cioè, ha provato a farmi 7 danni. Perché... Ci ha provato. Allora... Piripi... Maciamba. Maciamba. Bello, se ne vicini tipo tu e Andrea con i bastoni, tipo... Tipo un manichino. È vero. Però non volevo svelare al mondo che ho il mio bastone. Cioè, è passato 2 ore con lui, spero che mi faccia vedere. Sì, allora, sicuro di sorprendere tutti, pensate che sta anche voi. Faccio uscire la spada dal bastone. Che... Wow, quel bastone nessuno era una spada dentro, nessuno... Ah, io non ti ho visto perché sono mezzo in più. Come fa così, vedi che partono tipo 20 spighe di clown, tipo John Boo. Sente un colpo di gong e faccio tipo una stoccata. Quindi questo è meno difficile. Vabbè, ho il coso nero giustamente, mi ha dato. Però questo dovrebbe essere meno difficile del giusto? Perché engage. Ah no? Quindi engage è 2? No, non è sempre 2, pure per se vuole lì. Puoi con l'arma lì? Engage, con l'arma lì. Engage secondo me è 1. Perché sì? Con la adesso te lo dico. Vai, vai. Io questa cosa con l'arma è 1, però. Questo, questo, sì. Oh, sì, mia. Sì, engage con l'arma. 4 successi in vantaggio. No, engage con l'arma di è 2, scusa, ho detto una cazzata. Vabbè, tieni 4 successi in vantaggio e tira un viola. Tira un viola. Stavo pensando a dare una spada pistola. Via. 4 successi in vantaggio. 4 successi. Poco. Quindi danno sarebbe. Danno base più 3. 9 danni. Totale 9? Totale 9, sì. Quindi gli fai 4? Gli ho detto sì. Accusa molto il colpo. Ah! Accusa molto il colpo! Andrea? Napoli antenati. L'hai buttato? L'hai buttato? Lu, che hai fatto? No, l'ho infissato come un porcello. Però... Ma è morto o no? Perché l'ho atterrato? Ah, perché qualcuno mi ha detto... Perché gli ha detto di uccidere. Ma mi ha ucciso tre volte in volte. L'hai ucciso o no? Ha fatto un kebab. Prendo un kebab. Fico, mi piace. Vabbè, stacco, pausa. Andrea, Valerio. Ah. Sei ancora lì con quella che si lamenta e... Ma è svenuta, hai detto. Esatto. Ok, ma se arriviamo oppure no? Un po' sì, si sta un po' ripiando. Ma con me sto pure Edoardo. Sì. Edoardo, che faccio gin? Che facciamo? Io. Lo... C'è la... cazzo facciamo? Poi... Ma stai mai risvenuto, sì, no? Mi sta risvegliando. Sì. Raga, io dico che in tempo di guerra non puoi essere gin. Ma cavolo. No, devi lasciare una Cioè, o la costringiamo a parlare se sa qualcosa, o gli diciamo che siamo dell'impero, anche se mi hanno detto di non dirlo. Beh, posso sempre sparargli in un piede. Esce così muore. Beh. Già sta mezza morta. Ho capito. Cazzi che è un altro interrogatorio, infatti. Dai, puntagli la pistola alla testa e cerco di convincerlo a parlare. No, la testa no, perché poi se gli sparo muore. Punto la pistola tipo, che ne so, sì, su un braccio. Non lo schiatta. In testa, cioè. A 2 punti di salute, no? Ma mica gli spara veramente. Beh, se non risponde. Devi minacciare di sparargli. Oppure. Non c'è minacciare come schifo. Beh, un meccanico non è molto bravo a minacciare, sinceramente. Ma sì, sarebbe... Vabbè, gli possiamo dire, gli possiamo dire tipo, ci devi dire tutto. Cioè, nel senso, tipo sappiamo che Question è minacciare. Praticamente tipo, come si chiama? Minacciare in questo modo. Oppure gli diciamo che se ci dice tutto la possiamo riportare indietro, oppure lasciamo lì a morire. Che la possiamo proteggere. Deception è... Altrimenti lasciamo lì a morire. Deception è la girata. Oppure l'ammazziamo. Quello è il girare, Question è quello che perché lasciarla lì a morire. La ma lui cercava di raggirare o percepire l'inganno? Percepire l'inganno? Ah, percepire l'inganno? Cioè, penso sia Perception. Perception, sì. Question è quindi minacciare. Cioè, se il D&D sarebbe in paese a intimidire o no? Quello forse sì. No, intimidire è Deception. No, intimidire è Question. Intimidire, cioè, intimidire è come se io ti... No, Deception è ingannare. Question è anche in italiano. Coercere informazioni. Sì, sì, sì. Aspetta, qual è la non ha senso. Non ha senso. Sta reflection è willpower. Che willpower è... Senti, come in D&D è carisma. Sto facendo un'altra cosa. Cioè... non ha tanto. Boh, vabbè. Sta vincendo un solita. Cioè, cioè coercion alla fine, se io ti stratto, non è che mi serve cunning. Cioè, esatto, cioè mi serve. Non serve willpower. Come? Non serve willpower. Vabbè, willpower è più brona, allora scusa, sì, strattono, però magari ti faccio il vocione, capito? Mi sembra carisma, non lo so. Presence, quindi. Quindi aspetta, se si sveglia e voi presence, no, che sta pure cristiano. Abbiamo deciso cosa dire, non lo so, perché intimidire in okay, carisma, carisma. Allora gli dico. Allora tu c'è una scelta. Intimidire. Oggi dici tutto quanto? Carisma, oppure ti ammazziamo, rimani qui e muori. Se ci dici tutto, però possiamo aiutarti. Non è carisma, ce l'avevo cioè, dato che comunque muori, cioè vabbè, in ogni caso, a sto punto noi possiamo aiutarti. Cioè, non è che deve, questo non è basato su. Lei vede Edoardo, e c'è un attimo, ci dice, si guarda intorno, poi cioè, riguarda Edoardo e fa: ok, ok, va bene, proprio. Esatto. Ma noi percepiamo questa cosa? Cioè, io percepisco che lei ha guardato Edoardo. Sì, vede, tu vedi che lei, cioè, come si sveglia, vede Edoardo davanti a lei. Ah, di quella persona l'ha trovato nel culo. No, esatto. Mai scherzare che mi sei ragì. Mai scherzare. Lei vede Edoardo e cioè, sembra un sacco... Come dice? Ah, agitata da questa cosa. E poi guarda voi e fa vabbè, vabbè. Non ce la faccio meccanica. Cosa non vuoi sapere? Deve sapere da gara di cosa è successo, dell'ammutinamento, tutto quanto, tutto, tutto. Allora, lei che comincia da capo. Dovevamo fare una missione speciale da parte dell'imperatore che non posso ancora rivelarvi purtroppo. Questo sono. Cioè, sono ordini imperatori che sono tutto cazzo. Famosi. Ordini speciali. Il nostro comandante, Tae Yongo, si chiama Tae, scritto T-H-A-E, Yong, trattino Ho, con l'H. Come aspetta? Tae Yongo. Quella non è una primavera. Interessante. Tae Yongo, beh. E dice lui con l'inganno ha cambiato i nostri calcoli di astrogation, cioè i nostri piani di volo iperspaziale manipolando il pilota e ci ha portati in questo sistema con l'inganno. Quando abbiamo scoperto questo inganno lo abbiamo rinchiuso in una cella della nave e abbiamo provato a contattare l'impero. Ma mentre il nostro droide stava cercando di effettuare la comunicazione, lui si è librato dalla cella, facendo saltare i sistemi della nave proprio. Con la nave in avaria siamo precipitati e poco prima di schiantarci ha detto, cioè, è uscito dalla cella, cioè è tornato lì nella zona anteriore della nave e ha detto che doveva incontrare questo potente Jedi di nome Dakar. Ah. Aveva in mano... un oggetto, un oggetto luminoso. Ma che è su questo pianeta, quindi il Jedi, presumibilmente. Ha detto solo quello, ha detto. Cioè, sembrava proprio stranato, quasi avesse visto un fantasma. Cioè, è come se non fosse via pienamente in controllo delle sue azioni, come se qualcuno stesse manipolando. Io prenderei il cazzino, lo porterei. il cazzino che è in mano al tipo lo porterei in mano. In nave. Ok. Guarda, tu puoi provare a riscaccarti il detonatore adesso. Volentieri. Vai che Sentinelle adesso. No, però adesso scendi dalla nave compagnia e fai le tue cose. Va bene, scendo dalla nave. Cristiano, non so cosa. Allora, fammi un tiro di perception. Sì. Tu sei tutto giallo e verde. Tu in questo momento per via di tutti questi sicurezza. Quindi io ho visto che lei, quando ha visto Edoardo, ha cominciato a parlare. Cioè, hai visto che ha visto Edoardo, si è agitata tanto e poi aveva... Allora, se Edoardo è sceso che ha combinato a fare la cosa, sì, io gli voglio chiedere perché si è agitata guardando Edoardo. Poi? Chiama l'uomo. Un giallo verso verde e poi non so io. Faccio. Ma che cosa? Non lo so. È pericoloso. Cioè, del pericolo. Un nero no, il pericolo cioè, il pericolo è viola, è ben evidente. Sei ancora lì dentro un nella pericolo, cella allora. Un pericolo due viola. Ma sentite, e io volevo chiedere chi no luttiamo il tipo che è un successo a tre vantaggi no uno svantaggio e tre successi? Lutta, no, uno successo e tre vantaggi. Fallimento e tre vantaggi. Svantaggi. Allora, ti sembra di averla già vista da qualche parte? Non ricordo dove, perché questa qui è qui. Sì. Ah, l'ho vista. Poi tu hai chiesto a lei che ti altro. Vedi che dice no. C'è qualcosa che non va. Ma che cosa? Ma io in tutti. Non lo so, ma devi stare attento, tutti. È pericoloso. Ma io sì, non posso, non c'è va bene, ci farò attenzione. Ok, torniamo al combatto. Loot. Ma... No, sì, sì, che difficoltà è? Non mi ricordo. Abbiamo detto... non mi ricordo. 3, 1, fai solo 3 adesso. 3 viola? Si è allentato. Ti prego. Scoppia sicuro, cazzo. Un vantaggio. Dai, cazzo, sì. Prendi un altro di strength al culo e diventa più difficile stavolta. Però no, la prossima volta diventa più facile perché il tuo culo ormai non ce la fa più. Cioè, è larghissimo. Cioè, ormai c'è un prolasso, non un prolasso rimane qualcosa. Sì, capisci? Esatto. Un culo bionico. Vabbè, al posto di farmi un braccio bionico, mi faccio il culo bionico adesso. Ah, sì, faccio il culo bionico. Il culo bionico porta granate. Guarda. Quindi non può darsi utile, esatto. Combattimento, dove andare? Sì, io uso. Ma non è morto il tipo? No. Quando gli avete fatto 5 danni. Non sappiamo. Luca gli ha fatto 5 danni. Ma Luca non è ammazzato. Ancora no. Vai, vai però! Tempere, ancora in salute? Dai. Bande. Vabbè, io non ci provo niente. Sì, a me serve una roba. Con Skull Dagger riprovo a rubargli la. Un detonatore. Quello che c'è nella mano sinistra. Mi serve un bazooka, raga. È distratto, quindi difficoltà. Ma fai se si danno in bazooka. È distratto da una spada che gli si è conficcata nel. No. Ah. È un detonatore termico da lancio. Lancio proprio. Aspetta, due viola? No. Oh, porco. Oh, porco bio. No, faccio vedere qua. 2 vi. Quanti cazzo di verdi ho messo? Un po' troppo, mi sa. 4. Attore Alex. Così. Attore Alex. Guarda che figa stasera, ma che cazzo è? Tu mi fa un tiro di astrogation. Per fare gara con le partite. Niente, su 3 successi. Tre vantaggi, giusto? Non ce la fai, ma il tuo tentativo l'ho fatto distrarre verso di te stavolta. Cioè tipo... Qual è il vantaggio? È disarmato. Il vantaggio è per me. Il vantaggio è che non riesci... Il vantaggio è che è disarmato. Il vantaggio è che ha perso di vista la tua arma. Si è distratto da Luca, quindi gli ha offerto il suo fianco, il suo culo in questo caso. E quando... Sto guardando te. Luca. Tocca a lui. Domanda. che è proprio per questa, diciamo, distrazione. Andra. Prova tipo a nascondere il... Mi sarei tolto il detto. Vabbè, ormai. Cioè, stasera ormai cerchiamo solo lì, cioè, stasera si dice tutto lì, cazzo. Prova a darti una spinta e andare verso a scappare. Sì, a darmi una spinta. Cioè. Auguri Valerio. Auguri Valerio. Oh yeah. È passato un po' mezzanotte. Infatti non me l'ho accorto neanche io. Valerio, questa è l'età che passa dopo un po'. Tempo che scorre. La vita che va. In onore di Valerio. Finiamo qui la sessione. Mi faresti un caffè? No, non vuoi un caffè, no? Sì. Io sì. Controllo. Quanti? 1, 2, 3, 4, 5. Attenzione, attenzione, tutti gli invitati alla festa di Valerio sono invitati alla sala Wookie. È il momento della torta. Dio santo, queste cose non le lamenti, sai, con la stessa intonazione tutte le volte. Faccio un annuncio prima per quanto arriva la roba da maniaco. Quanto è il bro? Brown, cioè, 4. Cioè, che stai dicendo? Prova a spingersi. Però se così dice, se vuole spingermi come roccia per inizio, ma anche non vuole dire senso. No, no, no. Avevo il verso. Ok. Vedi che super massimo di Black Hole. Bravo. Distingarsi, ma non ce la fa. Ma scusa, la mia broom era la difficoltà del tuo tiro. Si gira e scappa, ma di poco, non si lontana neanche una, invece, di una distanza intera, di una distanza intera. Tocca a Salvo. Ma stordito inteso che tipo un dado nero? Sì. Forse dovevi dire... Lo prendono? Sì. Ah, no, no. Il più nuovo dei miei. Un nero! Basta. Ti allora, piace? Basta. Però basta per prendere quello che è in mano. Che schifo. Cioè, per prenderlo, però sì. Non c'è. Non c'è più in mano, però si è girato, cioè, lo vedi che sta attaccato alla cintura. Vabbè. Poi, ma perché due neri per fare cosa? Era per prendere lui e tirare. Ah, tutto lui. Tipo, dove vai? Sbaglio. Però a me servono due. Vedi, Andrea, se usi le volte la forza, alla fine ti frega della tua vita. Ma ci sei già lui, cos'è la forza? Se tira dunque, questo è difficile da interpretare e quindi lo fai tu perché non so. Ma io non posso farlo, tra l'altro, non c'è più palla. What the fuck? È possibile. Io ritirerei qua. Ma che non è la tua difficoltà. Togli un dado... Vabbè. Vabbè, ritira, togli un dado di uno. Ah, wow. Il trionfo con te. Il trionfo con te. Che cazzo è? Ok, non posso. Questo è più chiaro. Successo. Stacca l'olo per me, ti arriva in mano. Che schifo. Grazie. Come lo prendi? Che hai schifo. Hai una missione. Esatto, tipo eroina. Sì. Vedi un uomo incappucciato, seduto tipo sta meditando. All'inizio ti sembra sia una grotta. Poi diventa un campo di lava enorme. E sono io. E percepisci questa presenza forte della forza. Molto forte. Talmente forte che... Quella forza forte. Devi tirarmi i discili. Vabbè, difficoltà. Oddio. Se diventi buono, sì. Vinculato. Io spero di diventare buono, bellissimo. Come? Man, io sono ragazzi, due successi e un vantaggio. Gli avverto che stiamo buoni con un certo da dire. Vedi questa forza che non è strana, non hai mai sentito una cosa così, perché non è né lato scuro né lato chiaro. Che schifo. L'uomo si alza in piedi, si gira e si accende una spada laser. La lama è bianca. La visione finisce. Tocca a... Zip! Cioè, hai beccato, hai beccato, però lo trovano fallato. In pratica hai... La tua conoscenza del dono, non sai che dovrebbero darti tipo le conoscenze del tizio. Ma non contengono creato. Tipo esatto l'anima del tizio. Esatto, invece questo contiene una visione specifica. Mm. e capisci che non è neanche completa, come se dovessi tipo sbloccarla in qualche modo con qualche test, perché gli holocron sai che sono fatti in modo tipo a test per dare la conoscenza dell'anima in casa, cioè dentro a una persona diciamo degna, ma questo è fallato, capisci, perché non contiene nessun anima. Tocca a a Luca o a lui? Tocca a Luca. Prenotato. Loot. Dai, basta, ormai vi ha rubato la cosa. Che cazzo mi frega, lo atterro, mi sono rotto. Ammazzalo. Ma che botta che c'ha ancora vita. Allora, lo atterro con Brawl, giusto? Con una testata atomica. Ma dagli una spadata, quarta. No, difficoltà è tu, atterrò. Voglio... Fagli un mirato sulle gambe, cazzo. Tank. Tre carri a tre. Senti, nessuno ci controlla. Lo atterri, diciamo, e spazio diciamo, a destra e si sono imperiali. Nel rapporto scriviamo che era il traditore e via. Raga, è scivolato, caduto, svenuto. Chi? Lui l'ha fatto. Non è morto? Allora lo interroghiamo dopo. Lo vogliamo tenere? Ma no. Lo teniamo come l'ha detto. Ci abbiamo Elisa. Maestro. Beh, lo uccidiamo. No, teniamo, lo interroghiamo. No, voglio dei cose positive. Dobbiamo uccidere la gente. Quindi lo prendete? Sì, lo prendiamo. Trovate la nave, immagino. Sì, torniamo alla nave. Io lo me lo carico. Ho preso io l'oggetto, non preoccupate, tutto sto controllo. E niente, arrivate lì nella nave, lo lasciate. Forse no. No, non lo lasciamo, lo portiamo dentro e lo facciamo vedere agli altri. Dobbiamo interrogare. Abbiamo trovato sto ceffo che ci ha quasi ucciso. E non è vero. Si è preso un po' col nostro amico, con più braccia. Questo è il suo blaster, ha qualcosa di speciale? No. Va bene, questo è il suo blaster. Fammi controllare, ma no, era normale. Vabbè, me lo tengo io, dai. Non mi serve un blaster. Non mi serve. Ma no, attenzione, un heavy blaster pistol. Ok, me ne frega. Cioè? Damage 7. Finché non è disruptor. Finché non è disruptor non mi serve niente. Vabbè, se ne sono prendo lo frego io. Fermi, no! Edoardo l'ha lottato. È un disruptor pistol. No. Una cosa barata che non volevi darci. Ho sbagliato. Quante cose. Tanto le cose barate ce le mettiamo nel culo. Una esatto. Cosa ci fate con le cose barate? Che schifo. Vabbè, intanto comunque noi gli diciamo quello che ci ha detto la tizia Twix là. Sì, Twix destra. Twix destra, Twix sinistra. Che cazzo. Tuareg, sì, Tuareg, Volkswagen. Quindi vi raccontiamo quello che ci ha detto, e quindi presumibilmente è sto traditore, che è questo qui che ci ha avuto le visioni in seguito ad aver toccato qualcosa, non so cosa. Ok. Diceva che era tipo posseduto. Che c'è un altro scherzo. Una fallita. Vabbè, se qualcuno se lo tiene l'arma, ma è dove si requisiscono, quindi la scondiamo da qualche parte. Mica è casino la fare qua però Evi fa la musette, il resto io quello volevo dire. Evi, cos'è che cambia? La difficoltà da vicino com'è? Anche la skill per schermo per sì, no, quello fa quello un male porco, quello sì. Vabbè, no, solo più di danno quello. Caccia via. No, vabbè, comunque sia. E il tizio qua è da interrogare. E ha già in mano un holocron. Però ho qualche problema, devo meditare per... Se vuoi te lo aggiusto. Capire, non puoi capire queste cose. È un luogo dove tutte le cose sono giuste. Non puoi capire questo luogo. Esatto, finisce. Non ti voglio dare niente. Non puoi tenere a te. Ti immagini le cose, no? Se un monitor regolare c'entra proprio... Esatto. Chi vuoi che pensi di te? Tipo una spinta. Se si è troppo veloce. Pensa se qualcuno vai paccare il culo. Pensa tipo Brooklyn Nine-Nine in cui al tipo sparano nel culo. Esatto. Vabbè, no, dicevo l'oggetto, devo finire di vederlo, poi vi dirò cosa Intanto interrogate il tizio, la tua che ha detto qualcosa. Sì. Boh, mi ha visto momenti svieni. Che schifo, in effetti. E vabbè, io dico quello che ci ha detto, cioè il fatto che sono stati ammutinati, c'è stato l'ammutinamento da parte di questo. Ma questo è quello? Penso di sì. Ma questa è sveglia, no? Gliela posso fare riconoscere. Ah, sta vedendo questa di voi? Sì. Cioè, lei, guarda, sì, è lui, è lui. Cinese è una sei un po' un gesto, dice che è stato tipo controllato. Sì, sì, ho capito, l'abbiamo battuto in tipo 0 secondi. Oh mio Dio, siamo faccio proprio così, no? Che abbiamo un combo di sì, ma che è? Quello è svenuto, no? Sì, sì. Adesso lo picchiamo. Vabbè, ma può essere che sto stupendo, ma quindi nell'olocro non ci stanno le cose dei morti. Cioè, in teoria. Cioè, quello dell'olocro sì, dovrebbe essere morto. Sì, tipo funerali. Però da capire. No, perché... però perché quello è arrivato lì? Cioè, l'olocro l'ha portato ad andare lì. Non è. Non ci sta la memoria dei morti. Tu ci vuoi mettere le tue conoscenze. Ma la tizia cosa quindi dovrebbe essere ancora vivo questo Jedi che ci sta. Ah, quindi è fallato magari perché questo è ancora vivo. Cosa ha detto che lui ha detto? Cioè, lui ha detto cosa? Lui ha detto che seguiva sto Dakar e che quindi lei ha detto che pareva sotto l'influsso di qualcosa e ha cambiato la rotta per andare su questo pianeta senza farlo sapere. Beh, era una mente debole su di me, non ha avuto lo stesso. Ma quindi forse lì ci sta sto Dakar. Oh! Ma c'è Dakar, qui c'è Dakar, cioè se ammazziamo il Jedi facciamo... Ma chi l'ha detto? Lutto, Lutto. Sì, ha detto che non c'è. Che si alza il suo tizio con la spada laser bianca. No, prima l'altro l'ha detto a me, non l'ha detto a te. No, l'ha detto la tizia ha detto che c'era sto Jedi qui. Sì, l'ha detto. No, okay. Quindi questo è un Jedi, quindi se noi riportiamo la lei ha detto che è un Jedi. La spada laser bianca come? E poi troviamo la spada laser. Io sì, anche lui. Come sì? Cosa? Spada laser bianca. Ci sta. La spada laser, indipendentemente dalla visione. Ma anche a Ahsoka Tano. La spada cioè penso che in tutto l'universo ne ce ne siano poche comunque ma, sì, ma c'era anche cosa Andrea sei pronto? In Game Air nera ce n'è una no? Come una veramente? Solo di quella lì segreta imperiale in quella di coso erotico vabbè sono di Alist? No, il videogioco quello. The Old Republic. Ah, sì, The Old Republic. Vabbè. Ok. Mi batto il ma dice che ha poteri mistici. Cosa? Spada del bianco. Vabbè, comunque. Sì, è molto raro come cristallo. E vabbè, io ho avuto una visione di questo tizio, però non mi ha detto di andare da nessuna parte. Quindi lui ha una mente debole e semplice. Comunque adesso interroghiamo. Infatti sì. Buon bene. E va bene, andiamo due schiaffetti al tipo. Lo svegliate? Vedete che è molto, molto confuso, spaventato e non parla in maniera molto comprensibile. Cioè, tipo ranto di inutile. Che fai? Deception, non ti faremo del male. Gli faccio del male. Tanto c'è lì dietro che pulisce la spalla. Esatto. Beh, io dico... Perché siamo avviato. Gli diciamo che lo aiutiamo a compiere la sua missione. E lo portiamo da... No, ma il tizio dice qualcosa, tipo... Da capo. Si sta toccando la cintura e non trova il l'olocron ed è molto spaventato. Peccato. È perso. Cerchi forse questo. Lasciatemi. Gli chiedo perché si voleva ammutinare. Lasciatemi andare. Cioè perché noi ti vogliamo aiutare, ti vogliamo portare da lui. Quindi non risponde ai vostri stimoli. Gli sparo una gamba. Alienato. Gli sparo una gamba. Mi ricorda qualcuno. Un certo Wookie. Non posso curargli la mente. Curargli la mente. Senti cosa hai visto nel psichiatra. Dakar è lui. Ma è qua nel la spada, eh? È qua nel pianeta. Sì, lo sto cercando, non lo trovo. E dov'è? Dakar. Sai anche dov'è? Nel pianeta? Lo sto cercando, non lo trovo. Dakar. È schizzatissimo, no? Possiamo cazzo va a fare gente. Schizzatissimo. Sì. Siete l'esatico più folle. Perché lo cerchi? La spada. La ribellione. La spada. Allora gli punto. Gli punto una pistola. Gli punto una pistola in testa. Per 10 secondi. Poi gli sparo proprio a fianco la orecchia, cioè proprio, no, cioè non senza prenderlo, gli sparo proprio. Allora tu stai sparando nella orecchia. Qui. Proprio a fianco a lui, sì. Molto vicino a lui. Lui che sente proprio tutto il calore, gli va a fianco, cioè, capito? Gli sparo la testa. Perché? Perché la testa è un ologramma. Allora tu non devi tirare, cioè non hai fallito, cioè tu il colpo vedi che è andato a segno sul muro, cioè non hai sbagliato, cioè non è che tipo per sbaglio gli hai sparato male, però gli hai sparato la testa e tipo fa e salta la testa. Aveva anche lui una bomba nell'orecchio, vabbè. E occhio, tieni lontano la pistola, andiamo, quindi la basta. Soprattutto lontana da culo. Se ritrovi la mina vagante, guarda, proprio... Esatto, una bomba. Disastro. Durante il viaggio di ritorno puoi provare a ritoglierti la mina. Va bene, direi che possiamo chiudere anche qua. Ma scusa, perché non c'è... No, ma noi non torniamo. Dove torniamo? No, noi non torniamo, noi stiamo qua. Cerchiamo Dakar. Cerchiamo Dakar. Vabbè, la nostra missione è finita, però... Ma chi me ne fotte? Ma se riportiamo un Jedi morto all'impero... Esatto, ci premierà con molta più... Porca trota. Sì, è della Twitex che facciamo? Twitex, Twix, anzi. Twix, vabbè, questa sta ringoglionita, la lasciamo qua. Vabbè, già non era un imperiale, sta tizia. Sì, sì. Vabbè, allora la riportiamo salva all'impero. Ma dopo, mo si aspettasse un attimo. No, mo si riposta, non è che fosse. La portiamo e poi tu. La portiamo con noi, ci aiuta a ammazzare il genere. La portiamo con lei, dice, sì, vorrei... Sono Gigliaco, sono felicioso. Dicevo. Vorrei? No, lei dice, vorrei tornare, vorrei rientrare subito... Chi se ne frega, diciamo. Alla base, però, cioè, nel senso... No, se viva grazie a noi, non per il cazzo, ciao. No, certo, come lei dice, mi sono riconoscente e... come preferite voi, però... Cioè, possiamo portarla e poi vedere, però dopo l'impero... No, però per un leone, no. C'è un'altra missione. Voi? Noi? Voi chi? Forse anzi, tipo... Potete sentire la presenza di un altro... In teoria sì. Ma se si sta occultando dalla forza, no. Deciso. Cioè, non è tipo un tiro che dovete fare, ve lo dico e basta, giusto? Si può fare un tiro di discipline se vuoi, se no puoi dirci che avvertiamoci, che... Non c'è, voi non sentite presenza della forza da questo tempo, non c'è un particolare personaggio... Vabbè, chi se ne... Non lo sentite. Vabbè, cioè, il problema è che se riportiamo la tizia su, dopo magari ci danno un'altra missione. Lì non ci torniamo più. O dove devi convincere Capi a dire tipo, ah, c'è un forse sti PDB. No, sentiamo, non c'è un cazzo. Oppure non c'è un cazzo e rimani ancora. Possiamo rimanere. Quando... Vabbè, tanto mica sanno, sappiamo abbiamo che... Abbiamo fatto subito, scusa, aspettiamo un attimo. Appunto, mica sanno che abbiamo già finito. Cioè, appunto, va bene, la tizia. Non lo so, io lascerei crepare. No, però no, ci sono sopra. No, ce la portiamo presto. In prigione. Pronto, campo base. Ho trovato la stornata. Non ci sono. No, gli ce la portiamo presto e ci passiamo a mano. Scusa, qual è la missione iniziale? Salvare la tua. La missione iniziale era arrivare sul pianeta, scoprire cosa è successo, fare fuori eventuali ammutinati, tornare indietro con i sopravvissuti. Basta. E se non ce ne so, ce ne abbiamo finito, però da, no, però cioè, non possiamo, dobbiamo continuare a cercare. Suggerire l'ordine dei Jedi è anche un nostro dovere. Sì, voi sapete che l'ISB, cioè la vostra ISB, la vostra organizzazione, uno dei suoi compiti principali è ambientare qualsiasi traccia di Jedi. Cioè, rimarrai qua perché dopo magari loro non dobbiamo lasciarlo. Esatto, sì. No, ma come lasciarlo? Ah, dici? Cioè, c'è bello. Bello. Sì. C'è sempre un culo. Io dico che non male. Una turno ovviamente detto qualcosa. Comunque, no, più che altro sto dicendo. Tu dici che dobbiamo tipo, io lascio la tornare a redare l'impero, per forza. Vabbè, i vostri sono ordini, però dico, secondo me dovremmo tornare e riconsegnare da Twilio. Se no, tu torni e consegna a Twilio che poi ci raggiungi. Sì, io perché se è vero che c'è un genio su questo pianeta, potremmo non uscire vivi. Abbiamo anche ragione. Sì, cioè, nel senso, per me è una complicazione inutile quando invece abbiamo. I Jedi non esistono. Esatto. Cioè, lui ha ragione. Tu hai ragione, avete ragione. No, beh, si può fare. Allora, tipo, andate voi due, quartier generale, gli dite che noi siamo rimasti a supervisionare e intanto gli date la Twi'lek e che ci raggiungete perché c'è il Jedi. Non fate menzione di Holocron né niente. Io penso solo che voglio costruire nell'astronave uno scompartimento segreto dove nascondere la roba. Paio di giorni, poi ci vediamo. Cosa posso dire? Tu mi rifatti io, per rifare i calcoli. Puoi dire quello che ti pare, poi noi ci rivediamo qua. Dici che c'è un Jedi da trovare. E come abbiamo fatto? Vabbè, facciamo. Non bevi. Quindi voi due andate a trovare la base? Siamo così, sì. E gli altri, voi quattro, restate lì? O Edoardo parte con loro? Granata. Ma tu puoi provarti a riposare adesso. Dai, proviamo. Allontanati. Ce la faccio. Allontanati da tutti. Allontanati da tutti. Sì. Sì. Sì. La granata vede il sole. Piena di merda. Dopo due giorni. Che schifo. Ci stanno i morti. La puzza, gli sanno gli X-Wing. Mi pulisco accuratamente il culo e poi il detonatore termico. La granata devi pulire. Volevo fare l'entrata epica, ma dopo non si vedeva. Oddio. Che cos'è? No, io sto troppo di parlare con Darth Vader. Sì, la... Gli ha sempre... sembra incinta. Cioè, non sapevo come fare l'entrata epica. È Marco. Praticamente Luca e Luciano arrivano alla base e si ritrovano davanti sulla pista dove c'è cioè, atterrato sull'hangar. Oh, cazzo. Ciao. Addio. Sei in ritardo. Sono molto lento. Dovete tirarmi. Mancanza di puntualità. Quindi cos'è? Oh, siamo scappati. Dici, allora sì, dici prima di tirare. Anzi. Un bello... Com'era 4? Difficoltà mi sembra che... Ah, è tipo 5. 5. Come? 5 piano? 5 piano. Sì. Sì, effettivamente è il più... Più potente di. Mi fa paura, paura. Vabbè, puoi già dire che hai fallito. Luca. 5 viola, tranquillo. 5 viola. No, nessun fallimento. Ma sono qua. Ma eravamo 4 c'è stato. Due verdi, 5 viola. Cioè, comunque lei anda solo. No, facciamo così. Erika, come c'è una bomba di Edo. Dai. Due fallimenti. Merda, Cristiano è partito. Aspetta, scusami, no, perché due fallimenti? Ah, no, no, per lui, quello. Cristiano non si decide che smetto. Cristiano non lo riesce manco a guardarlo. Ciao, ciao, pure. Sì, ma se lo rifai. Guarda. Non riesce. No, guarda. Sette svantaggi, un successo. Dobbiamo finirla qua. Dopo. Cioè, non so, dobbiamo finirla qua, volete fare almeno la sigla. Andate. Cosa volete? Ma che succede con te? Allora succede che Cristiano e Luca scendono. Cristiano sviene. Ma a guardarlo, cioè, si cade in mano. Luca si avvicina. Trovo insopportabile la tua mancanza di Holocron. Luca si avvicina e fa. E vede Fenix e fa. Cosa avete scoperto su quel pianeta? Io essenzialmente, fammi pensare, io sono ho 4 svantaggi, però non ho... Sei cagato. Sono cagato sotto? Abbastanza. Da un po'. Ok. No, io... Cioè non hai paura tipo da dire... però neanche per da lì. Oh, bella, oh, bella penno. Un bel appello. Beh, allora non dico nessuna menzione, cioè... Sembra più alto il tipo. E muore. No, allora dico come stanno le cose, dico anche che loro sono rimasti e hanno l'olocron e sono andati a cercare un genere. Cioè, non dico quello che mi è stato a dire, dico proprio... Ah, di tutta la verità, però, no? Sì, sì. Lui vedi che ti, ha, cioè, ti prende e ti alza a mezz'aria. E niente, sei morto. Non tornerò altre persone, non andiamo andare. Sono stato io a diciamo scegliere voi o meglio a istruire questa missione per conto del creatore, non tornerò altri fallimenti, altri continuamenti. Ma non abbiamo fallito? No, scusa, niente deviazioni da ritorno. Ah, vabbè, easy. Ora va e riempila, no. Cioè, noi siamo risparmiando il cazziatone. Oh yeah! Consegnate subito la Twi'lek e l'Holocron. Ma tu te ne sei? L'Holocron ce l'ho io. Mi occuperò io dei Dalgeri. Come l'Holocron? L'Holocron sei morto! No. Aspetta, non ci hai detto dov'è? Sì, allora... andrò di persona a trovare gli oggetti. Ti lascio andare a distormi di chi ha rubato l'oro. Ti lascio andare e sale sulla sua adesso lasciamo tipo un fiocchettino. scusaci darti. Vabbè, metto mandi Duca anche se so. Boh, non lo so, cioè, non era poi di cose stavo spaventato per cui non aveva fatto successo, però ho fatto svantaggio, non so poco. Boh, anche per come ha fatto il tuo personaggio, secondo me davanti a Fener. No, io avrei. No, ma io gli avrei più traditi volontariamente, però non lo so. Cioè, avrei più traditi nel senso con la. Ma tu potevi anche dirgli la balla, solo che ti hai ricagato lo stesso. Cioè, non hai fallito nel senso che sei spaventato. Infatti non aveva fallito, però non lo so perché c'è non lo sapevo. Quanto svantaggio è tipo sei iper stressato, ti cagli un bello sotto, però poi comunque provare la base. Però è effemero. Invece lui no, lui si caga sotto nel senso sì, signore. Gli rischi di tolgo la vespa dalla maschera. Quindi niente, va bene, potremmo chiudere. Da sì, vai. Con voi che cercate di superare il Fener in velocità per andare per venirci a vedere. Sì, volevo fare che il Fener li incontrava tutti così, però vabbè. Sti cazzi. Ma dalla morte. Ma noi perché siamo rimasti? Se non ci sono segni di... Andiamo a cercare. Forse user nel pianeta. Allora andiamo a cercare. Andiamo comunque a cercare se ci sono abitanti. Chiediamo in giro. Ma è il senso sull'altro pianeta il 4. Te l'ho detto che andato sul 4 e l'ho detto dall'inizio. In realtà sia 4. Perché dovrebbero esserci? Perché dovrebbero esserci due pianeti? Perché due leve? Perché due pianeti? Raga, una domanda. Siccome avete la scelta, sì. Anche se questa. Oh, dobbiamo usare qualche punto del flip up per non poi incazzare la Fener. Esatto, ormai è finita. Adesso avete la scelta, no? O usiamo tutti o, sì. Esatto. O tentate la fortuna contro lui, sì, sì, subito, oppure potete fare questa cosa. Sì, abbiamo 5 flip, poi flip. Allora, sei morto davanti a restare lì. Eccolo signore. Oh, un flip per capito sta così, sì. Lo diciamo. Ah, vuoi farlo? Un flip per riuscire a percepire dove sta, così quando torna sappiamo di guarda, noi abbiamo trovato, sta là. Secondo me è meglio fare un flip per una super cazzo, tipo siamo degni di trovarlo e poi la prossima stagione andiamo a cercare. Ah, no, facciamo altro. Avanti veloce con quello. Sì, sì. Anche poi ci sta. Mi piace. Arriva Fener. Così lui ha già la missione per la prossima, non si deve mettere. Mi fa la super cazzo, lo salva. Fener si prende l'oro. Così. Ah, così non la cerchiamo neanche. Ci sta. Non vuole sapere nulla da te. Lui arriva. Ecco, cioè, Mago l'ha presa così. Cioè, no, mentre tu gli parli, tipo ti stai dicendo su quel cazzo, prende Overton e rimane un attimo così a guardarlo. Aspetta, se fa chiuser si sente un uccello. Lui lo sa che noi siamo for chiuser. Sì. Teoricamente. Sì. E non ci dice niente. Vabbè, d'altronde ci sono anche gli inquisitori nell'impero. Lui lo guarda. Poi io sono una serie in confronto. Avete tre minuti paura. Quant'è 5 viola? Sì. Oh, non posso dire, no, aspetta. Due successi, un trionfo e due svantaggi. Vado lì da fare e faccio, oh, bella mezza. Che bisogna tirare per paura? Io ho fatto tre svantaggi. Aspetta, no, aspetta, ma che devo tirare? Non te lo dico, ecco. Perché... No, sta che devo tirare. Già non devo tirare. Ah, sì, uguale, sì, è giusto. Però oh, un vantaggio e tre svantaggi. Un successo e tre svantaggi. Un successo e tre svantaggi? Sì. Cazzo, li esisti bene. Pure come stanno? Cioè, praticamente. Perché siamo degni. Siamo degni di andare a prendere il Jedi. Flip. Beh, non bisogna flippare a sto punto. Cioè. Lui sta con il loro. Vabbè, che sempre la paura. Il fatto che ti squarti è un altro discorso. Vabbè, ovvio. Vedete, se dopo un po' lo tiene in mano e sta tipo fermo, lo chiude la mano e loro non esplode in mille pezzi. Vabbè, l'ho fatta anche nell'altro campagna. Questo era una visione fasulla. Siete stati raggirati. Però vedo che ve la cavate bene con il lato scuro. Mi fa così a voi due, cioè mi guarda e fa. Cazzo, lui mi sono preso la strozzata con gli dice. Quindi mi strozza, dai, prego. La strozza qua. Chiama. Dov'è che il nostro amico da strozzata? Avrete finito con la vostra missione? No, mi ritrovo, la nostra missione è trovare il tizio. No, la nostra missione è molto più complessa ora. Ve ne parlerò alla base. Prossima puntata. Quindi quando c'è finita la missione che dobbiamo fare? Quindi è questo, non ne bisogna fare. Come? Quando è finita la missione, hai detto? Quando finirà la vostra missione, sì, contro la paura, morirete. Vi terrò in considerazione. No, di questo non è per mettere paura. Ah, boh, bebe! Boh, bebe! Ma che sia ben chiaro, succhiare banane. Non deviate, o meglio, quindi non disobbedite mai più agli ordini che vi sono stati dati. Se trovate un Jedi, un Force Sensitive, dovete dirlo a me. Non la io ucciderò tutti. Io non ci faccio. Se lo trovate prima, ammazzatelo, ma dovete dirlo a me. Dovete dirlo a me. Una pelle di Force Sensitive. Se lui vi trova, diciamo, nel senso, cioè se vi attacca, ovviamente uccidetelo, cioè se noi sappiamo che c'è un posto, esatto, da qualche parte, dobbiamo dirlo a lui invece di andare a cercarlo. Se ci arriva uno con la spada così, c'è un motivo perché non sono al comando. Perché? Perché capisco io. Dai, ma anche ci sono, quindi. Vabbè, easy, darti, è un piacere lavorare con te. Vabbè, lui sale sulla nave e se ne va. Ciao. Voi siete stati lì 20 ore. Voi siete stati lì 20 ore. 40 ore. Siamo lì 40 scusa, ore. Scusate, tra l'altro adesso sentiamo altre 20 cazzo di ore. Che diciamo che in quelle 40 ore poteva darci un passaggio. Allora, loro si riprendono la nave loro due e lì, cioè, arrivano proprio. Chi ha detto che vogliamo riprendere? Gli ordini, Ciccino. C'è una da ferma e dobbiamo andare a riprendere? No. Non ci sono ordini. Vabbè, allora in 40 ore. Oh, fatevi un giro, scusa. Vabbè, siamo andati nei villaggi a chiedere il genere. Esatto, cosa fate un po' di giri. Allora, abbiamo ucciso i villaggi. Le persone di villaggi mi guardano molto. Cioè, sono molto. No, ormai non più. No, ma per loro vedere un tizio con la pelle blu, due Zabrak e un tizio con il braccio bianco è una cosa, cioè, che schifo. Cioè, tipo i flashback, tipo l'immagine che ci diamo le persone ridendo, ah, io che spariamo, sì, esatto. 40 ore di fuoco. Cosa fatti questi 40 ore? Va bene, dai. No, cioè, non avete scoperto nulla, se non che anche Skeletor in realtà sia quarto è abitato. sarei in comunicazione con questo pianeta e c'è un force user e c'è una, hanno un'armata, non hanno, cioè, posso dire, non hanno forze che mi sembrano enormi, ma sembra che ci sia una specie di forza edilizia dal pianeta della pianeta sia quarto e niente, va bene. Tu hai avuto il tiro di paura per cosa è uscito? L'hai fatto? Era questo 5 di viola 3 willpower, disciplina 3 verdi e 5 viola. L'attrice... 2 successi, ma tanto un successo. Oh. Ah, guarda, grazie, guarda, grazie. Adesso che la madre è un bimbo, forse la madre di Gary Fisher. Porca troia, chi? Ma Gary Fisher aveva la madre viva? Sì, 84 anni. La madre. Ma sta cosa di mango, questi qua. Infatti, sto pensando. Ma che è sta cosa? Merda. Sì, va bene, quindi chiudiamo qua? Sì. Sì, allora qui arriva la domanda. A sto punto, la prossima sessione, voi volete restare quindi ancora nell'impero? Giusto? Certo. Non lo so, dipende dagli eventi. Ci caccia. Finché non ci caccia, non serve la risposta giusta. Finché non ci caccia. Vi darà una scelta. Vi dirà qual è la vostra vera missione e vi darà una scelta per cominciare. Voi potete scegliere queste tre missioni. Io le avevo tutte e tre. Riparare il buco. No, tranquillo, dicele così. Sì, così non è sì, così. Riparare il buco della morte nera. Basta che cambiamo tra. Allora, le tre missioni della scelta sono: una, dovete andare su una nave, la prima, dovete andare su una nave di diplomatici, su una nave tipo a crociera nello spazio, piena di diplomatici, così che devono firmare una legge. E farli fuori tutti. Perché ancora c'è il Senato. E firmano questa legge su un'estensione di una sovranità imperiale, non lo so, una cosa. Devono riuscire a firmarla. Il vostro scopo è proteggerli perché a quanto pare c'è un assassino a bordo che vuole impedire la firma di questo trattato. Ok, abbiamo fatto la one shot che ho fatto con Edo sul 3. Un'altra missione è una stazione, una centrale di estrazione di ipermassa che si dice che è stata avversaria dai ribelli. Voi dovete andare lì e impedire un furto di ipermassa. L'ipermassa è il carburante per il salto nell'iperspazio. L'ultimo è un archeologo che aveva scoperto qualcosa di importante, ma sono perse le comunicazioni. Da questo mi sa tipo di Prometheus proprio, la mummia. Sa molto di... Capito che c'era là, ho scoperto qualcosa. Il secondo e il terzo. Mi sa più di Indiana Jones, Han Solo, sai, se non guardi. Magari l'archeologo ha scoperto qualcosa. No. La seconda... Non me l'aspettavo. O la seconda o la terza. La terza. Io la terza volo. Seconda. La terza com'è, scusa? L'archeologo che ha scoperto qualcosa e poi non è andato più. La seconda è la ipermassa attaccata dai ribelli. E la terza che è molto Indiana Jones. Capito, è figa, è avventura. E non dice più cosa, cioè perché ho perito. Erano ricerche importanti per l'impero, dovete trovarlo e recuperare le ricerche. Ma una cosa, dovete tirarmi in moralità? Come si fa? 0-0-0. No, come 0-0-0? Non avete fatto nulla di buono. E di cattivo, una cosa buona e una cosa cattiva. Che oddio, cos'è la cosa buona che fa? 0-0-0 significa? Alle salvate per pizzare. 0-0-0 significa prendiamo 0? Prendiamo 0. No, tirate per togliere alla vostra moralità quel risultato. Ma che devo tirare? Devo tirare, scusa? 10. 1! 10. Posso già aspetta 7 di 10 il di 10 quindi il risultato è dovete togliere la vostra moneta 10 quindi devo togliere il risultato per tu la tua moneta che mi sto prendendo dobbiamo arrivare a 0 12 quanto hai? 12 hai messo un punto ferito in meno come? no in più no c'è una sola sì hai uno strain in meno forse perché? Vabbè te lo dico la prossima sessione. No, vabbè, te lo dico. Un'altra cosa, allora, ritirate i punti di moralità. L'esperienza? Esperienza. 10 a testa, più 5 con voi votate, sale fuori. Ah, perché avete preso. Insomma, andate a fanculo. Quanti punti di esperienza? 10. Beh, io direi Edoardo perché se mi sta granata nel culo. Vabbè, Beh, ragazzi, ma lo salvato... sai che adesso che ci ricontrollerò un'altra volta te la devi rimettere no, una volta? No, no, no. No, sai perché? Perché voglio costruire... La uso subito. No, no, voglio costruire un reparto segreto nell'astronave. Allora, tu quando l'hai tolta, hai visto che si era attivata, però siccome l'hai tolta tenendo premuto il detonatore... Ah, quindi ci metti lo scopo. Esatto, ci hai messo tipo... Cioè, l'hai tipo disattivata se togliere la mano dal grilletto. In pratica, cosa è quello? Benissimo. Quando cioè, hai 10 o 12? Facevi una... In modo tanto hai uno strain in meno e un punto ferito in più. Vabbè, te lo dico. Ma perché? Ma non so, faccio 4 ore streaming come Terence. Ma perché? Perché così se hai meno, hai più strain e meno punti feriti. No, mi hai appena detto più un punto ferito a meno un punto strain. Esatto. E mi hai appena detto più perché, perché al contrario in realtà il light, cioè nel senso di solito uno arriva light side alto e ha più strain e meno vita? No, il uno in più, uno in meno è solo col dark, il light side ha solo positivi, mi pare. Capito, ho capito. Va bene, quindi 13 esatto, il light side sopra l'80 più uno di strain e sopra il 90 me, più 2 di strain. Il dark side invece ha meno 1 di strain e più 1 punto ferita e meno un punto ferito, ah, e poi un altro in più sotto i 10. Quindi se la prossima ancora vado più 2 di vita più e meno 2, meno 2 di strain. Ok, cambio ci faccio strain. No, dobbiamo votare tutti, odi io Edoardo. Sì, dai, sì, Edoardo, dai. Allo Edo, ma grazie. Ho sofferto tutta la sessione. Sì, il tuo soprannome da oggi sarà... 15 pix, però. Un culo a fiore, ma che poi, quindi, sarà una cosa che è questione di culo. Ah, è vero, però, non lo sappiamo, quindi io non lo so se ti voto. No, adesso... Il voto è mezzo. Il voto è mezzo. Il voto è questo. No dai raga, devo costruire uno scompartimento nell'astronave dove possiamo mettere la roba che ci fottiamo in giro senza che nessuno lo scopra. Ma si muove, aspetta l'occasione per quando farebbe la spia il mio personaggio se lo scoprisse. Allora faremo cioè, meglio, no, vabbè, che muore dopo tre sessioni. Tu sei il PG che muore dopo tre sessioni. Ma guarda, no. Io se passate al lato, no, non ho sentito. Lato chiaro, devo morire o faccio un cane. Magari se magari oh, hai staccato di là? Hai staccato di là? Non lo so. Che vuol dire che devi mettere la veramente il coro? Che stai già riparte, andiamo.